vi presenta. Allora parlo con la zanzara, Radio 24. Ciao Benny, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una cosa è certa, è solo una questione di tempo. Il potere, e non quello che intendete voi, il potere democratico, il potere alla libertà, i cittadini se lo riprenderanno, manca poco. Grazie. Che cosa sta succedendo? Ah, c'era anche la colonna sonora? Accidenti, gli effetti speciali su questa premonizione, grazie. È nato un nuovo tipo di deputato, il deputato corregistratore, il deputato DJ. Si tratta dell'onorevole Tofalo del Movimento 5 Stelle, che a un certo punto ha messo davanti al microfono una canzone, People Have the Power. Questo succede nel magico mondo a 5 stelle in Parlamento, cari ascoltatori, ultima puntata dell'anno della zanzara. Caro Parenzo, dove sei? Buonasera, sono a Siena, dare l'addio al pubblico della zanzara, non so se il prossimo anno ci saremo, non so dove sarò, non so se questa trasmissione ci sarà. Io volevo ringraziarvi tutti perché siete stati dei grandi compagni di viaggio, anche chi mi ha mandato a fare in culo, e vi ringrazio perché mi avete odiato, io vi ringrazio perché voi mi volete sputare in faccia. Vi ringrazio amici Notav per le minacce che ci avete mandato. Bene, non so se a settembre ci sarò, non so se ci saremo, ma grazie. E invece devo stare dalla parte del deputato dei 5 Stelle, Colletti, il quale giustamente cita Napolitano, il Presidente della Repubblica, in un discorso, e da parte del Presidente della Camera, Boldrini, arriva un rimprovero. C'è scritto nel regolamento della Camera che non si può evocare, non si può parlare del Presidente della Repubblica. A parte che secondo me non c'è scritto nel regolamento della Camera. Ci fosse scritto nel regolamento della Camera, di cui non mi frega assolutamente nulla, ci fosse scritto nel regolamento della Camera, sarebbe una cosa da cancellare. Per quale motivo in Parlamento non si può parlare del Presidente della Repubblica? E capire che non siamo una monarchia costituzionale con a capo Re Giorgio I, ma siamo in una Repubblica parlamentare. No, però lei non può parlare così del Presidente della Repubblica, lei lo sa questo. Perché no? Ne abbiamo già discusso in altre occasioni. È scritto nella Costituzione, allora, la Repubblica parlamentare. Sì, però lei sa che non può chiamare in ballo il Presidente della Repubblica, anche questo fa parte del regolamento. Allora non lo chiamerò. D'accordo, la ringrazio per questa cortesia. Proceda. L'innominabile. Ed allora, invece di fare ogni tanto un monito con il ditino alzato, l'innominato dovrebbe ogni tanto anche guardarsi allo specchio. E ricordo... Se lei continua io sono costretta a togliere la parola. Mi perdoni, non ho nominato nessuno. No. Mi scusi, non ho nominato nessuno. Ho solo citato un libro che dovrebbe conoscere, un personaggio delle favole quasi. Allora... Ma ad ogni modo non lo nominerò più, non si preoccupi, non so neanche chi sto nominando in realtà, quindi in un modo non posso appropriato. Nominare chi non ho nominato in realtà. Prego. Ora devo dire, caro Parenzo, che in questo caso ha nettamente ragione il deputato dei 5 Stelle, signor Colletti. di cosa stiamo parlando? Si può criticare il Presidente della Repubblica fuori e dentro il Parlamento? Ci fosse un regolamento che proibisce di citare o di parlare del Presidente della Repubblica, è evidente che se uno manda a fare in culo Napolitano in aula c'è un problema. Ma no? C'è un problema per tutti, se tu mandi a fare in culo Letta o qualcun altro, e vabbè. Quello è chiaro, ma se tu no, citi, come lei sa, c'è proprio una norma specifica su. Sì, d'accordo, ma se uno cita, come lei ben sa, sì, d'accordo, che è cresciuto lei alla scuola del professor Zagrebelsky, signor Cruciani, però se tu citi il Presidente della Repubblica, sì, pur criticando, e dai con 4D, e dai direbbe Mughini. Ora, noi vogliamo tanto bene al vice ministro ai trasporti, signor De Luca, no? Del Partito Democratico. Moltissimo, lo abbracciamo fortissimo, come al solito. Però se ne deve andare da sindaco. Se vuole fare vice ministro, deve andare via da sindaco. Io glielo dico in maniera spassionata, con grande affetto, con grande amore. Deve lasciare la poltrona di sindaco. Non è possibile fare il vice ministro dei trasporti, una cosa importantissima, e il sindaco di Salerno. Non è possibile, con la testa non è possibile farlo, con l'impegno, col cervello non è possibile farlo. Che Del Rio e gli altri abbiano deciso di accelerare i tempi, buon per loro, avevano voglia di scapparsene dalla loro città, io no. Lo Stato mi dovrebbe ringraziare, perché in questo momento continuo a fare a 1800 euro netti al mese un doppio lavoro al servizio del paese e al servizio della mia comunità. A chi dice che è attaccato alla doppia poltrona, lei che risponde? Dico quello che diceva Seneca, vasa in ania multum strepunt, diciamo, i vasi vuoti fanno molto rumore, c'è gente veramente che non ha niente da fare la mattina. A proposito di violenza, i signori no TAV, sentiamo qualche coretto questa mattina davanti al Tribunale di Torino, dove gridavano lo sbirro nel cantiere dovrà tremare, i signori no TAV, i pacifisti no TAV. Lo sbirro nel cantiere dovrà tremare, se arrivano i no TAV, ale, ale, ale, ale, ale. Siamo qui, la Zanzara, ultima puntata dell'anno 800240024, Giovanardi, Italia è uno dei paesi meno omofobi del mondo, sentiamo. Sono Giovanardi. Italia è uno dei paesi meno omofobi del mondo. L'Italia è un paese, mi scusi. L'ha scritto lei. Non l'ho scritto io. C'è un rapporto che dice esattamente questo. L'Italia è il paese in cui Presidente della Regione Sicilia è un gay dichiarato, certo. Presidente della Regione Puglia, si chiama Nicchi Vendola, è un gay dichiarato. Beh, non è che l'esistenza di questi due presidenti giustifichi nulla, però secondo me su questo la voglio dire tutta, ha ragione Giovanardi, in Italia tutta stomofobia, tutto questo odio per i gay non c'è, non esiste, è tutta una palla, ci sono le solite minoranze di violenti, di gente disperata, di gente ignorante, che ogni tanto qualche aggressione, ma questo esisterà sempre in tutti i paesi, esisterà sempre. Che fai Parenzo, stai zitto? No, voglio dire, questa difesa inutile del pensiero debole, peraltro, del signor Giovanardi. Ma non è la io non devo difendere nessuno, forse tu non hai capito, io non è che perché Giovanardi dice una cosa, allora devo dire per forza che è sbagliata. Vittorio Sgarbi è con noi, buonasera. Ciao Vittorio. Eccoci. Come andiamo? Ma l'ho sentito 5 minuti fa. Bene. L'hai sentito 5 minuti fa dove? Scusa, non ho capito. Prima che iniziamo. Scusa, abbiamo parlato di che cosa? Gavino Letta, padre e padrone. Non sa neanche chi è Gavino Letta. Ma io lo so benissimo. Ma che vi mettete a parlare per telefono di Gavino Letta? Ma siete impazziti tutti e due. Io ho chiesto il numero di Gavino Letta e lui fece una delle cose sarebbe belle che fece della interprete della materia. Se gli fai di omofobia ti dice delle cose mica. Ma innanzitutto Sgarbi sarebbe il primo a finire in galera con questa legge, secondo me, è il primo in assoluto. Beh, a un certo punto, dal punto di vista linguistico, posso dire che il superamento dell'omofobia è nel fatto che se domandi a un ragazzo di 16 anni cosa vuol dire finocchio, parla soltanto di una verdura, perché non, ha, non si può più dire Finocchio, non c'è più, è sparito Finocchio, è sparito Frocio, quindi io Frocio lo dico ancora. Hanno purificato il linguaggio. Quanto poi al tema specifico, occorre decidersi, sono le donne che patiscono il danno maggiore o gli omosessuali? Cioè? Perché c'è il femminicidio o l'omofobia. Allora, il femminicidio presuppone l'uomo contro la donna, ed è una, quindi in realtà tutti sono minoranze. Ce l'abbiamo a fare la legge per il femminicidio, poi per l'uomicidio, e poi per l'omofobia, e poi anche per la eterofobia. Cioè, io non vorrò essere chiamato eterosessuale, non voglio più essere chiamato, voglio che mi chiamino, fai quel cazzo che vuoi. E uno che sta con un cavallo, il mio scultore di prediletto, si è innamorato di un cavallo. E io racconto, parlavo ma è vero o no? Filippo De Villa, potete chiamarlo, sta con un cavallo. Ma è vero o no? Potremmo mai più dire... Dio cavallo, non so che cosa, non voglio dire bestemmie. Ecco, appunto, forse è meglio. È bizzarro che alcuni animali fanno bestemmie, altri, se dici Dio gatto non bestemmi, ma se dici Dio è un altro animale bestemmi. Vabbè, lasciamo perdere questo aspetto. Ma non ho capito questa cosa qua del tuo scultore, a parte che sei in viva voce, Vittorio? No, no, c'ho un telefono ottimo, però c'è un rimbombo, sento il rimbombare la mia... No, no, sono... No, sono sento un rimbombo... Aranci, a presentare una mostra di scultura in acqua, fatta col Museo di Portofino, e sono nel comune, c'è questo rimbombo nel comune di Golfo Aranci. Scusa un attimo... La mostra è bellissima, scultura. Io non ho capito, il tuo scultore preferito che cos'ha, con un cavallo? No, si chiama Filippo Dobrilla, ed è trisessuale, sta con uomini, donne e animali. Ma no, ma dai, ma non è vero. Innamorato di un cavallo, ti assicuro. Ma non sta con gli animali, ma che vuol dire? Il suo innamoramento per il cavallo. Ma non sarà mica una... attenti a non fare da male ai cavalli, perché ci sarà una legge per la difesa dell'amore per i cavalli. Ma no, ma non mi dire che sta pure con gli animali, dai, su. Sta con gli animali, sì, sta con gli animali, che siccome è un selvaggio vero, vive, sta con gli animali, con le pecore. Come no, da parte non c'è niente di male, no? È una scelta, perché dobbiamo... No, ma io non sto dicendo niente. Vabbè, insomma, dai. È meglio Parenzo con un cavallo che Parenzo con Crocetta? Ma è una porcheria tremenda, dai, ma è una su. Porcheria assoluta. Con un cavallo puoi fare tante cose, puoi cavalcarlo, essere cavalcato. Ma che c'entra Crocetta, scusa? Con Crocetta, non so. No, voglio dire, però il problema di fondo è che se fai queste leggi per categorie, dovrai difendere un giorno anche gli eterosessuali. E anche l'omicidio normale... che uccide un uomo invece che una donna, ma la donna che uccide una donna è un femminicidio o una cosa diversa, che è un femminicidio in qualche modo attenuato dal fatto che a uccidere una donna? Ma allora perché Scalfarotto, se la donna è eterosessuale o se è omosessuale diventa femminicidio perché la uccide in quanto donna uomo? No, ma poi che mondo è questo? No, ma Vittorio, sono d'accordo con te, è un reato semplice che riguarda quando diciamo le pari opportunità, uomini e donne sono uguali, allora il femminicidio altro non è che un omicidio con aggravanti. Basta. Scusa. Perché aggravanti? Perché devi chiamarlo femminicidio? No, ma... Scusate, Vittorio. È insultare una persona per la sua scelta sessuale. Allora uno potrà insultare me perché sono eterosessuale. No, scusami, Vittorio. Diciamo la verità. Quando tu dici delle parole sull'omosessualità, potresti essere il primo a entrare nel mirino. Sto dicendo. Io sono l'ultimo che dice ancora Finocchio, non dice neanche Giovanardi. Io ho detto culattoni raccomandati a quei culattoni delle Iene. Sono l'ultimo ad aver usato... Ma no, da quel momento, per quello dico la legge serve poco, potrà servire per punire me, ma si è addirittura smessa, non c'è più nessuno che dice Finocchio e Procio. Dunque non ce n'è più nessuna emergenza. Sono talmente aggressive che il linguaggio le ha eliminate da solo, per cui che bisogno c'è di fare una legge per difendere qualcuno da un'offesa che non c'è più. Scusa. Che c'è, Parenzo? Sentiamo Parenzo, anzi, Vittorio. Sentiamo Parenzo. Nel caso specifico, quando Vittorio diede dei culattoni raccomandati alle Iene, l'offesa era raccomandati, non culattoni, ovviamente. Ecco, appunto, infatti. Questo è evidente. Bravo, invece sulla parola Finocchio, lì era l'offesa, questo è chiaro. Sulla parola Finocchio invece è diverso, perché la parola Finocchio ha una storia antica. Ma no, che se io dico Finocchio devo andare in mano a un giudice che decide se è reato oppure no. Cruciale, tu hai ragione per un semplice fatto, che ci siamo già autocensurati, cioè Finocchio lo dicevi fino al 1985-90, non lo dici più. Ma allora perché, ma questo l'ho capito, Vittorio, perché la lingua ha censurato? Perché allora Scalfarotto e altri vogliono questa legge? Ma perché sono matti, anche Busi l'altro giorno era saggio nel dire che quelli delle donne che andavano da Berlusconi non erano reati di prostituzione, perché non è prostituta una che va per il suo interesse. Però... Dico, quando Sofia Loren sposa Ponti invece che Alain Delon, non è che non sa riconoscere quale è più bello. Decide qualcosa che è il suo legittimo interesse. Vabbè, quello è un altro discorso. Perché perché Scalfarotto vuole sta legge? Max Ernst sposò fu amante della Guggenheim, cioè, quindi dico questo, quanto a Scalfarotto, sono tutte persone che desiderano di avere un'area privilegiata perché quello che fanno non possa essere indicato come una cosa che a un altro non piace. Ma può benissimo non piacerti una cosa, non è che, voglio dire, l'essenziale è che tu non dica a uno Finocchio con intento di offenderlo. Ma anche se glielo dici con intento di offenderlo. Beh, vabbè, questo può essere. E che fai? Devo andare a finire sotto processo. Se io dico. È vero che se dici a uno Finocchio per le sue sessuali, se dici una cosa, c'è una. Scusami, Vittorio, adesso io sono più estremista di te su questo. Se io dico i froci mi stanno sul cazzo, qualcuno lo dice in giro: i froci mi stanno sul cazzo. Sono un imbecille, sono un coglione. Dopodiché non sarà elegante. Sì, capisci, ma dico, ma non posso finire davanti a un giudice. Non posso finire davanti a un giudice per questo traffico. No, ma è come dire gli ebrei mi stanno sul cazzo. Il problema è che tu non puoi dividere la società in categorie. Un attimo, c'è il traffico. C'è il traffico. La Zanzara. Parenzo, meno tre giorni al compleanno del signor Pripke. Comprare il signor Pip, capito? Meno tre giorni. È ancora vivo? Beh sì, è ancora vivo, ma ti sei fissato su questa cosa qua? Beh, guarda, il regalo che potrebbe fare l'umanità è morire nel giorno del compleanno. Ma l'hai già detto, sono giorni che lo dici. Comunque ti segnalo meno tre giorni ai cent'anni del signor Pip. Ma ci saranno altri anniversari da ricordare che non il compleanno di un vecchio, gli imbecille. Vittorio, ma perché Parenzo si è fissato su questo? È un criminale schifoso, ha vissuto fin troppo. È un criminale, non ha torto Parenzo, però sono anche meno tre giorni dalla sentenza della Cassazione, quindi siamo di fronte a date epocali, quella di prima che è poco interessante, però posso dirvi una cosa abbastanza pittoresca, che a tal punto la giustizia italiana è sbilanciata, che io andai a trovare Merola, ti ricordi Merola, quello del Merolone? Come no, certo. Nella cella di Pripke. Addirittura. Il reato di Merola, che è analogo a quelli di Berlusconi, che poi è finito nel nulla, meritò l'arresto di Merola nella cella in cui era stato Pripke. Cioè, non è che mi colpì molto, perché ero stato a trovare Pripke qualche anno prima. Ma erano insieme. Poi lo liberarono, ovviamente, e misero nella sua cella Merola. Pensa che giustizia ci deve essere in Italia. Vabbè, ma sono celle. Erano celle. Erano cesse di celle, però credo che fossero entrambe individuali, perché il reato era così odioso per entrambi che dovevano stare in isolamento. Ma scusa, uno non ha il diritto di festeggiare i suoi cent'anni anche se è un criminale nazista, non ho capito. Sì, il problema è che li festeggi per i cazzi suoi, il problema non è intanto lui, sono quelli che fanno pubblicità del suo compleanno, quindi su questo Parenzo dice una cosa che non è legata al compleanno, ma all'esaltazione di uno che viene stimato da taluni perché non si è pentito. Doveva pentirsi comunque di quello che ha fatto, anche se l'avesse fatto regolarmente. Vabbè. Il reato, come ricorderai, è che esiste più persone di quelle che la norma indicata da questi odiosi nazisti avevano indicato, cioè 1 a 10. Sì, ma... di più, dimostrando di non considerare. Quindi è chiaro che anche solo per quello che ha fatto doveva scusarsi. Sì, d'accordo, però lo fa diventare siccome la legge prevede di qualche fanatico. Siccome la legge prevede che questo possa anche passeggiare e andare a fare la spesa, perché uno sì. Perché uno no, sì. No, ma sto dicendo che tu dici due cose diverse, cioè ha ragione Parenzo sul fatto che non occorre fare pubblicità positiva al compleanno di un criminale. Il compleanno lo festeggia chiunque, lo festeggia anche, appunto. Anche Rina festeggia il compleanno, che non è che puoi impedirgli di festeggiarlo, però non è che è una festa nazionale. Questo è stato l'errore di quelli che lo hanno esaltato per la sua integrità del cazzo, insomma. Senti, ma hai visto che Busi alla fine la pensa come te su Berlusconi e le donne? Non ha torto, perché se tu è enorme questa cosa, è Parenzo che sta migliorando, dovete capire che quella cosa che dice Busi è giusta, la prostituta non viene punita, ma il suo sfruttatore, perché la prostituta è una proletaria che fa un lavoro subordinato al dipendente di qualcuno. Quelle che andavano lì con Mora e Fede non erano sfruttate da quei due, li sfruttavano. Si tratta di circonvenzione di attempati. Sì, questo l'abbiamo già detto. Sono loro i fregati. Andavano lì con l'obiettivo di ottenere un risultato. Ma ti pare che Fede ha preso televisione, Parlamento, assemblea regionale. Potevano finire mille cose Berlusconi. E ci andavano per l'interesse che muove ognuno di noi, andare da un produttore che faccia un programma televisivo. Ma e male. A te pare possibile che Fede ha preso 7 anni come pappone? Soprattutto perché Fede, questa è la cosa che farete fatica a intendere, non è peggio di Biagi. Biagi per una frase di Berlusconi ha preso 3 milioni di euro ed è diventato un eroe. Fede è stato cacciato da Berlusconi. Beh, cacciato, e dai. Non ha avuto nessun vantaggio. fu cacciato prima di queste vicende da Rete 4, quindi è un giornalista che ha fatto la sua storia. Ma perché dici peggio di Biagi? Non è sicuramente meno originale di Biagi, uguali, come più giovane di Biagi, non è diventato un martire, perché uno è stato colpito da Berlusconi che ha detto i giornali e le televisioni mi attaccano, e l'altro non ha fatto niente ed è stato cacciato lo stesso. Ma ha cacciato, cacciato per modo di dire, dai. Sì, no, vabbè. Sì, cacciato. Ma quanti, sapete quanti soldi ha avuto per andarsene coscientemente? Sì, di lire ha avuto Biagi. Sì, e dice che è stato cacciato, invece ha concordato con sua soddisfazione quella cifra e continua a passare per cacciato. Quell'altro ha preso, è stato cacciato via, prendendo 3 lire di liquidazione, forse. Beh, è un contratto per diversi anni. Un contratto. Io d'accordo, però certamente meno oneroso di quello di Biagi e con uno che non ha fatto niente. Beh, dunque non c'è il vantaggio dello sfruttatore. Non è che lui prendeva dei soldi dalle puttane che portava Berlusconi. Quindi il reato non esiste. Senti, ma ci puoi spiegare l'origine finale della parola capra che è relativa a Busi, collegata a Busi? È divertente. Allora, sempre per le leggi contra persona, ma che sono state fatte verso di me, io a un certo punto andai da Limiti e prendevo per le puntate di Limiti 7 milioni di lire. Sì. E quei giudietti fecero interrogazione e decisero che i ministri e i sottosegretari non potevano essere pagati in televisione, anche se parlavano di canzoni. Estesero questa norma anche ai parlamentari e poi anche agli assessori e ai sindaci di piccoli comuni. Per cui io cominciai a non essere più pagato dalla RAI. Chiambretti lavorava alla RAI, mi invitò con Busi. Busi pagato 10.000 euro, io niente. Decisi allora di andarci, ma di tacere. Busi cominciò a raccontare la sua vita. A un certo punto sfiorò anche me dicendo: no, perché non sono un figlio di papà come Sgarbi, mi sono fatto da solo, la mia mamma e il mio papà erano poveri, io ho fatto tutto da solo. A quel punto mi sono girato i coglioni e ho detto: capra, 13 volte. E cominciò così. 10 anni fa esatti. 13 volte, è stata la mia prima vittima. E dopo è diventato... Io ho il vantaggio che racconto sempre che i personaggi televisivi passano come l'acqua. Conti, Frizzi, anche Baudo, due soli sono legati a una parola. Uno è mai buongiorno con allegria e l'altro sono io con capra. Parenzo? Una parola che identifica una persona. Parenzo, ci sei? Beh, certo che ci sono, in questo ha perfettamente ragione, è vero. È vero che... c'è qualche altra parola che è stata... No! Cioè che nel frasario televisivo io aggiungerei forse. Senti, ma Berlusconi che deve fare dopo il 30 luglio? Ma guarda, la sensazione che io ho è che la Cassazione diminuisca la pena togliendo l'interdizione, potrebbe farla 3 anni senza interdizione. L'altra è che tutto finisca in vacca, a quel punto il PD non potrà continuare a essere alleato con uno condannato a 4 anni, quindi il problema sarà del PD, non del PDL. PDL rimarrà come cozza legato al PD. E Berlusconi rimarrà nel governo perché si sente più garantito, ma il PD dovrà dire: non posso stare con questa puzza umana condannato a 4 anni e interdetto. Quindi il problema è tutto del PD. Però scusami un attimo, Vittorio, diciamo una parola finale su questa legge sull'omofobia di cui si discute solo in Parlamento, perché nel paese no. Basta, si chiuda questa vicenda o no? Guarda, si dovrebbe chiudere, ma non si chiuderà. L'essenziale è capire questo: se noi usiamo i termini su un piano meramente connotativo, hai ragione tu. Se intendiamo offendere qualcuno dicendogli finocchio, è come una querela di parte, ma c'è anche lì, però, anche lì esiste già la norma. Ho capito, ma io ti dico stronzo rotto in culo, tu mi puoi querelare. Sì, ti appunto. Dico finocchio con lo stesso tono, quindi non capisco, cioè includere per categorie è una forma di autorazzismo. Ma sì, e dai. Questa è la cosa più sbagliata, però è vero che se dice uno ebreo, volendolo dire in senso dispregiativo, ho capito che devi finire, ma ho capito, ma non puoi finire in tribunale per una cosa del genere, una cosa ridicola. Però perché puoi finire in tribunale se dici a uno stronzo. Sì, ma anche sporco. Fa il bene proprio e il male altrui. Quindi non è un'offesa. Va bene, ciao Vittorio. Pubblicità, giornale radio, poi continuiamo. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, schiacciala, schiacciala, ti ha beccato. Maurizio dalla provincia di Roma. Maurizio, buonasera. Dica. Signor Cruciati, stimo moltissimo lei e la sua trasmissione. Sono perfettamente d'accordo su quanto avete detto sull'omofobia. Vabbè, poi? E per quanto riguarda Priebke, beh, io penso di aver rivisto il film Dio perdona, io no, perché noi viviamo in una società cristiana. E allora? E in una società cristiana è previsto il perdono. Il perdono. E l'odio non va esternalizzato come fa apparenza, perché fa veramente schifo. È una persona proprio di piccolo spessore, secondo me, culturale, morale. Chi mentale. È di piccolo spessore? Non ho capito. È Parenzo. Parenzo e tutte le persone che hanno augurato l'odio, la morte, noi viviamo in una società cristiana. E nessuno sa se confessandosi Priebke abbia chiesto perdono a Dio, perché è cristiano anche lui. Ma non lo so se sbagliare. Ma rimettiamo a posto le cose. Pensiero. Sì, Parenzo. Rimettiamo a posto le cose. Non c'è nessun perdono. Chi doveva chiedere perdono era il signor Priebke, che come ho detto ormai da tanti giorni ha già vissuto abbastanza. Se lo vedo passeggiare per strada, sputo per terra, non addosso, ma sputo per mi permetta ma, di non detto, essere d'accordo. Mi permetta di criticarlo alla grande. Io ho diversi amici pure. Ebrei che non e sono come pure. Lei, non sono sionisti. Sono forse persone non hai capito. Di buon pensiero. E lo fischio pure. Persone se, normali. Se ce l'ho, se, forse non ci siamo capiti. Se lo vedo per strada, sputo per terra, non addosso lui va per terra. Lo fischio, sì, lo fischio. Vabbè, che ci vai col e fischio? E gli dico, gli urlo che lui è vivo e mia nonna è stata in campo di concentramento e che vabbè. Per me lui è una merda. Vabbè. E glielo dico in faccia. Poi vabbè. Dopo lui può continuare a fare la sua passeggiata, tranquillo. Sì. Gli dico sei una merda se lo vedo. Mi permetta di non essere d'accordo. Siamo in un paese democratico, ognuno la pensa male. Come vuole. Ma poi c'è un'altra male, cosa, mentre ascoltavo prima l'intervento alla e Camera poi uno telefonare. Ma poi può uno telefonare e dire un e parlare di carità fa. Cristiana per primo. Ho telefonato alla Zanzara di altri. E l'ho detto. Noi siamo parlare un attimo. Apparato burocratico di un sistema che paffa un sacco di soldi, tanti, troppi. Il presidente della Repubblica Napoletano che ha due pensioni più 280.000 euro. Ma che c'entra Napoletano adesso? Che c'entra Napoletano? No. Darebbe uno schiaffo morale a chi? Ai grillini. Vabbè. E a tutti. Maurizio, adesso lei mi ha scocciato. Adesso lei mi ha scocciato. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Epifani alla direzione del PD, congresso a novembre ed elezione del leader aperta solo agli iscritti. Letta ci vuole un segretario che si occupi solo del partito. I renziani e i giovani turchi contro la proposta. La elezione del segretario deve essere aperta a tutti. Rinviato a mercoledì il voto sulle regole. Passa alla Camera il decreto del fare, ma continua l'ostruzionismo dei deputati 5 Stelle. Molte leggi rischiano di slittare dopo l'estate. Al Consiglio dei Ministri giro di vite su fumo e scuola e nuove regole per la strada, via il provvedimento che svuota di poteri le province. Arrestato il macchinista del treno deragliato su Facebook, si vantava di superare i limiti di velocità, ancora incertezza su una possibile vittima italiana. Il Papa a Rio incontra alcuni ragazzi detenuti, giovani e anziani insieme per il futuro e stasera la Via Cruci sulla spiaggia di Copacabana. Qualche giorno fa a Palermo Rosa viene uccisa dal suo ex marito davanti al figlio di soli 2 anni. Ora il bimbo rischia di essere tolto ai nonni. Al TG3 il dolore della famiglia. Oh, c'è un signore, uno scrittore, almeno così dice di essere, che si chiama Camillo Langone. Lo conosci tu, Parenzo? È una firma del quotidiano Il Foglio. Sì, sì, anche giornalista per Il Foglio, il quale dichiara in maniera aperta di essere un omofobo. No, lo dice sono un omofobo, non sopporto gli omosessuali, dice anche delle cose ben peggiori, ma va benissimo per me, Uno che lo dice così apertamente è anche il numero uno, cioè un mito ma totale. Lo possiamo sentire al telefono. Lo abbiamo chiamato per invitarlo alla Zanzara, lo abbiamo invitato. Invitiamolo ancora. Lo abbiamo chiamato per invitarlo alla Zanzara, è finita in questo modo, sentite. Pronto? Camillo? Sì. Ciao, sono Cruciani. Oddio mio, no, mi fai schifo tu, mi fa schifo il tuo programma. Ma scusa, non ho capito, perché... Questo ha ragione. No, non esiste proprio. No. Ma perché non vuoi parlare di Froci con noi? Chiama Giovanardi. Ma perché non vuoi parlare di Froci con noi? Non capisco. Non esiste proprio. Perché? No, spiegami. Non vengo a fare il pagliaccio. Ma non il pagliaccio, a combattere sull'omofobia, sui Froci, dire la tua, perché no? No, perché no? Perché preferisco scrivere, sono uno scrittore. Ma lo so che sei uno scrittore, dai, non ti voglio pigliare per il culo. Perché pensi... Lo farai. Sei... Ma perché lo farò? Un pioniero, un mendace. Ma che un mendace? Che vuol dire un mendace? Un mendace, informati, leggi cosa vuol dire, vai su Google, mendace. Ma lo so che vuol dire mendace. Sì, no, che sei un mendace ha ragione Langone, su questo ha ragione. Ti passo sei Parenzo, magari ti convince Parenzo. Non voglio sentire Parenzo, va bene, statemi bene. Dai, ciao. Camillo! Beh, siccome si permette, cosa vuoi che non voglio sentire Parenzo? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Beh, Langone è uno di quelli che a un certo punto scrisse una volta, anni fa, su Libero: togliete i libri alle donne e torneranno a fare i figli. Per me uno che dice queste cose è il numero uno assoluto. Non capisco, ma non vogliamo fargli fare il buffone. Camillo, non vogliamo farti fare il buffone, vogliamo che combatti per queste cose. Per me è uno che è contro la legge sull'omofobia. Oggi è un santo, è un santo. Comunque non abbiamo promesso, come dice qualcuno, i guanti bianchi a Langone, non abbiamo promesso un trattamento di favore. Gli ho detto che non l'avrei preso per il culo, magari poi accadeva lo stesso nella discussione, nella battaglia. Però abbiamo un grande ospite questa sera per l'ultima puntata della Zanzara, uno che ci farà delle previsioni, direi precise, perfette, al 100% sulle questioni fondamentali della politica. Se noi diciamo di, voi rispondete vino, di vino, di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im, elo, im, elo, im. Mai al mondo verrà la fine, come sempre. Di vino. Salutiamo e benediciamo da Palinuro, amatissimi figli, come sempre siamo al lavoro, fini sui gravi, complessi problemi del mondo. Perché da Palinuro, di vino? Perché siamo in ritiro spirituale con i discepoli, era previsto da tempo, prima di lasciare l'Italia, un triduo di rigenerazione e di espiazione, specialmente dopo la trionfale Epifania Divina di domenica 21 nella Fontana di Trevi, che poi gli italiani vedranno a settembre in tutto il suo splendore, sul noto programma televisivo nazionale. Sì, mi segnalano però che in realtà... Perché ridi, scusa Davide? Dai, date un colpo all'omuncolo che come sempre tenta di evidenziare la sua trascurabile. Il clown del circo si è buttato nella fontana di Trevi. Ma datelo là dove è atteso, avendo le noccioline al circo Barno o a sbattare, fate buttare qualcosa. Datigli una spazzola. Ma ancora in circolazione sta questo? Che prima pulisca ben bene e poi lavi ancora, a puntino. Ancora in circolazione sta questo? A Tuttavia Palinuro. Noi finalmente abbiamo capito che faccia ha questo individuo, perché c'è stato per puro caso mostrato un segmento in cui costui appariva e tentava di palesarsi come giornalista, e qui la comica è stata veramente... Ma come c'hai in bocca una patata che non riesce a parlare? Se questo lascialo è un giornalista parlare. Scusa, divino. Basta chiamarlo divino, basta, è offensivo. Dai. Basta chiamarlo divino. Divino. Basta. Divino. Comunque divino. Gli italiani a settembre vedranno il popolo di Roma esultante, ha assistito con incredibile stuporoso afflato a questo storico evento. Ma qual è tutti sto storico? Attorno alla fontana di Trevi, anche ma la polizia municipale si è comportata magnificamente. Ma pare che... mi hanno detto che l'hanno arrestato. Cambiato per un pazzo, dai. Assolutamente l'hanno cambiato per un pazzo. Assolutamente no. L'hanno segnato. Naturalmente era del tutto ovvio che entrando nella fontana di Trevi, come prima di noi altri, il Marcello, Claudia, l'altra come si chiamava? Ma che si vergogna. Beh, naturalmente ci sono delle procedure da seguire, questo appunto. È ovvio. Ma scusi, che cosa è andata a fare nella fontana di Trevi, caro divino? Cazzo, è un buffone, già in un precedente evento di una 15 anni fa che saremmo tornati per donare a Roma, sì, al suo nuovo sindaco, sì, alla giunta capitolina, al popolo tutto e naturalmente alle rappresentanze, frega, giunte dalle cumene, infatti c'erano rappresentanze di tutto il mondo, sì, la gioia di poterci contemplare e soprattutto la gioia di poter essere benedetti, sì, e sono stati benedetti, benedetti. Cioè era una era una benedizione per Roma, questo divino. Ma era una solenne benedizione riservata all'urbe, all'urbe, al suo popolo, capito, e alle rappresentanze. Ma non gliel'ha chiesto nessuno, è un mitomane, ancora non te ne rendi conto, è un mitomane. Poi quando sento gli italiani, ma lei è un mitomane, ma sono andato sul suo programma ben noto quello che è veramente successo, lo stupore, sì, crescerà, lo stupore per forza, perché è pazzo, si evidenzierà, tutti si chiederanno, sì, fortunati quelli che erano là presenti, peccato per noi che eravamo chissà dove, magari sulle spiagge a perdere tempo, o sì, a sentire insignificanti individui tipo quello che è lì da voi, insomma. Parenzo, che vuoi dire? Tu hai assistito? No, ma è un uomo, è un uomo io ormai mi sono reso conto nell'ultima giornata della Zanzara, è un uomo tragico, si è reso ridicolo di fronte voi dati anche del denaro a costui quando c'è gente che muore di fame. Ma quale muore di fame? Ma se questo pazzo, questo è un muore un denaro per costui. Scusa, ma chi divino, chi lo paga? C'è dietro questa radio che disperde il denaro che invece dovrebbe essere finalizzato a ben altre meritorie iniziative, per esempio le nostre, perché noi abbiamo in effetti bisogno di assistenza per portare avanti la nostra missione. Ah, pure i soldi. Non fai un cazzo tutto il giorno, mandi comunicati farneticanti, ti metti dei serpenti sulla testa, degli anelli inguardabili. Sono quelle cose, sono quelle cose, sciocchino, che tu non potrai mai... Non ma io infatti non me le metterò mai, ma infatti è improponibile, ma neppure concepire se me le dovessi vedere addosso, sputami in faccia, guarda, se mai mi dovessi vestire come te, sputami in faccia. Il nostro sacro calzare, o sfiorare la nostra sacra vestita, noi ti abbiamo visto, ma guarda, ma neanche giunti, ma neanche i pagliacci di Derek Stogni, stracciati, senza sostanza, balzellavi di qui e di là, dicevi cose che nessuno capiva, facevi domande cui nessuno rispondeva. Divino, divino, tutti sono ben consapevoli del fatto che tu non esisti. Divino, allora adesso c'è la borsa, dopo quando ci ricolleghiamo con la Zanzara la domanda è questa: cosa accadrà il 30 di luglio? Questa è la grande domanda che poniamo al Divino: cosa accadrà il 30 di luglio con la Cassazione? Berlusconi verrà condannato? Il governo resisterà? Al Divino la risposta dopo la borsa. La Zanzara. La notte di Capodanno Matteo Emilio ti porta al Senato ed era deciso. Dopodiché è subentrato un qualche cosa che poi io ho scoperto cos'era. Porta al Senato Emilio, esce l'Espresso. Ah, Emilio Fede, pensionato di lusso, Berlusconi gli ha versato 800.000 euro. Magari, ti prego, Presidente, stai vedendo, se stai vedendo questa trasmissione, verso questi 800.000 euro, fammi la cortesia. All'ultimo momento sono stato cancellato la lista e sarei stato un ottimo senatore. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Inpgi di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'Inpgi? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andate a fanculo! No, Emilio, scusa, ma chi si è arrabbiato con loro? Rotto i coglioni! Siete delle merde! Andate a cercare nel mio privato! Ma noi abbiamo... Ma noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra cazzo, sia la tredicesima e stipendio, 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo! Cioè di 20.000 quanto ti resta alla fine del mese? Cioè proprio in tasca? Facendo le cose, sì. 3.000. 3.000. E gli altri 17 che fine fanno? Beh, vabbè, c'è un fratello che è in cassa integrazione da anni, sì, un altro che è disoccupato, paga la cameriera, paga l'autista, insomma, sì, vuol dire vanno via i soldi, ci mangio anche, insomma, no? Poi i debiti, qualche debituccio, no? Bravo, ha detto bene, qualche debituccio. Ma di gioco? E di che? Di sesso, lo dice. No. Lì hai applicato la spending review. sai qual è il suo difetto dell'acciderma di essere generoso? Eh vabbè, questo lo dicono tutti, lo dicono tutti. Ma avrà invitato troppa figa o no? Sì ma, o no? Ma magari, non è... ma io, vabbè, io guarda, io non dico. Ma lui non mi va di... Oggi devo parlare, scusatemi. Ci siamo trasferiti da un problema serio ad una puttanata. Lasciamo perdere. Perché una puttanata? Allora, cosa? Ma ah, certo, una storia dire, di puttane di... forse. No. Ma cosa volete il titolo? No. Guarda, per allora carità. Comunque avevi detto che la Minetti una volta era rimasta nuda e Berlusconi aveva lanciato uno scialle. Una volta l'avevi detto, no? Guarda, ti saluto, sai perché? Perché non avete rispetto di una vicenda drammatica. No, come rispetto? Allora, ma stiamo giocando. Non ne avete rispetto. Io per gentilezza vi ho seguito, ma allora andate a fanculo. No, ma che c'entra, Emilio? No, ma perché? Perché, scusa? Perché? Stiamo parlando tranquillamente, Emilio. Emilio? Ma dove è andato? Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo? Im! Parenzo, ancora il divino in collegamento, Parenzo. Se noi diciamo ubri, voi dite aco. Se noi diciamo ubri, voi dite aco. Ubri, aco, ubri, aco. Mai al mondo verrà la fine e il divino continuerà con le sue cazzate in testa. Divino, risponda lei. Non fai notizia, non esiste. Risponda lei, divino, risponda lei. A cosa? A questa parodia di Parenzo. Ma vabbè, ma quello lì è un poveretto. Poi ha dei grossi problemi esistenziali. Nessuno lo considera, nessuno lo valuta. D'altra parte, come si potrebbe valutare l'inesistente? L'esistente non ha peso. Il suo pondus è assolutamente trascurabile. Quindi deve necessariamente tentare di imitare chi lo sovrasta. Lui è nel fondo, guarda verso l'alto, verso la luce, cioè verso di noi, e naturalmente questa luce lo inebria, lo affascia, lo coinvolge, vorrebbe attingerne una piccola particella, ma naturalmente ma cos'è questa flatulenza che sento? Parenzo, rimane nelle tenebre. Ma cos'è questa flatulenza? Lui dice che tu guardi il cielo e guardi il sole, dov'è la luce, e cerchi di attingere da lui. Io chiedo al grande pubblico della Zanzara questo: andate sul sito del Divino Telma. Andate sul sito. Un attimo, Divino. Per le strade, insomma, no. Un attimo, Divino. Un attimo. Io posso solo parlare delle stelle con le stalle. Questo è ben noto, insomma. Sì. Ecco, se essere, diciamo, se essere considerato così da Otello mi fa solo piacere. Mai toccherò il più basso fondo della storia finendo dentro la fontana di Trevi vestito come un pagliaccio, che neanche i pagliacci di Moira Orfei, che erano vestiti meglio di lui, fotografato dai giapponesi. Mai finirò così, mai. Nel più modesto trivio di villaggio, neppure immergendoti in una fontanella di strapaese. Ma io non vado dentro le fontane vestito come un buffone, non ci vado. In un meandro, sia che ti... Ma comunque voglio che giudichi il pubblico. Sia che non ti insini da nessuna parte, che poi è la tua condizione abituale, tu non esisti. Quindi noi ti esortiamo a ciucciare una caramella, pur di tacere, datemi una caramella. Ma se poi la caramella non ti piace, ciuccia ciò che più ti aggrada e cui sei aduso. Ah, come? Questa qua è una grave insinuazione, scusi, cosa Divino. Cosa ha detto? Ciuccia quello che più ti piace. Abbiamo a detto, cui... dategli una caramella. Poi se lui non è aduso alle caramelle, anche i doppi sensi, è aduso alla liquirizia, che è un'altra variante. Ah, ma lei non... di liquirizia, dategli una bandiera. Ma lei non si riferiva alla liquirizia. Lei non si riferiva alla liquirizia, Divino, su, dai. Vabbè, comunque. Siamo creature, quel personaggio lì, spirito, quindi non possiamo che esprimere concetti spiritualizzati. Sì. Poi è chiaro che se vi è malizia nell'ascoltatore, allora è chiaro che si possono dire significanze che in noi non sono assolutamente presenti. Divino, che succede il 30 luglio? Sentiamo. Ripetiamo quello che abbiamo già detto all'ANSA con qualche precisazione. Sì, dov'è l'ANSA? Il 30 luglio, sì, ecco, è una data certamente infausta. Infausta. Per, Silvio. Ci voleva lui. Per Silvio, sì. Noi peraltro a Silvio gliel'abbiamo già fatto sapere da tempo che quel giorno a Infausto. Sì. Ci sono delle evidenti dissonanze di matrice saturnina. Sì. Saturnina. La sentenza della Cassazione. Sì. Non potrà che andare in rotta, anzi meglio entrare in rotta di collisione, sì, con le sue aspettative, quali che siano. Un'altra banalità simile, ti giuro, gli sputo in faccia. Sarà una, io non ne posso più, scelta, una indicazione di tipo giuridico che possa in qualche modo, sì, sottragare le sue ansie, le sue speranze, le sue attese. Dove, cioè alla fine sarà condannato Divino? Non vi sono dubbi sul fatto che l'esito finale sarà in Fausto. In Fausto, esito in Fausto. Capito Parenzo? Capito Parenzo? Ha detto che sarà condannato. Sì, che sarà confermata la condanna. Esito in Fausto. Vediamo. Ha detto esito in Fausto. Ma io se l'hai fatto vaffanculo. Dica che se sarà condannato oppure assolto. Non faccia il solito noi giochino suo. Noi usiamo il linguaggio che più ci aggrada. Ma non è il linguaggio, il linguaggio di quelli che non vogliono dire un cazzo come al solito. Quattro parole di italiano plebeo a dirci in che modo noi possiamo, sì, utilizzare il nostro italiano aulico, certo, ognuno sia nel suo canto. Va bene, noi, Divino, un'ultima su, e tu naturalmente dagli strati di cui sei aduso. Divino, sì, sarà condannato, questa è, diciamo che non è una previsione così lontana. Pagliaccio. Da secondo il pagliaccio con gli anelli. Allora, un'ultima cosa, Divino, un'ultima, al di là dei tecnicismi, che si va verso una soluzione, sì, di evidente scompenso, sì, anche in termini politici generali, cosa che peraltro noi avevamo già preannunziato, come qualcuno ricorderà, sì, almeno 4-5 mesi fa. 4. Anche alla Zanzara, tra l'altro, l'avevamo detto. Sì, oltre assolutamente. Che nel nostro abituale programma Un giorno da pecora. Assolutamente. E in numerosissime altre occasioni. L'avevamo già detto, per esempio, che, sì, il governo Letta è un governo appeso a un filo, questo filo. Beh, questo diciamo non ci vuole. Non serviva lui, diciamo. Diciamo, quindi, questo qua è abbastanza evidente. Divino, la ringrazio. Queste cose non serviva. È abbastanza evidente, noi l'avevamo detto quando non lo era. È qui il punto. È qui il nocciolo. È qui la differenza. È qui la differenza. Scusi. Otelma, scusi. Sì. Otelmati quando ti rivolge a noi, in ginocchio. Lei si è mai, ma noi in ginocchio di devoto raccoglimento. Lei immagina, si è mai chiesto davanti a te. Inginocchiati, inginocchiati. Questo esulta. Inginocchiati. Ecco. Inginocchiati. Ma questo personaggio che gira, questo personaggio che invito il pubblico della Zanzara. Non può parlare restando in piedi. Si inginocchi. Guardi a noi, dategli una nostra immagine, la potete ricavare andando nel sacro sito di vinotelma.com, gliela mettete davanti. Si inginocchi. Il vostro raccoglimento potrà non interloquire naturalmente, però potrà pregarci, potrà invocarci. Ma che raccapriccio. Parenzo, inginocchiati. Vabbè. Io invito semplicemente il pubblico della Zanzara a andare, sì, sul sito del Divino Telma e dirmi se questa persona qui è sana di mente, primo. Secondo, sì, si chieda a Otelma, sì, il pubblico della Zanzara vada sul sito di Otelma, sì, e anche solo il modo come è graficato, cioè con colori diversi, vabbè, allora, parole sconnesse. Vedetemi se è sano. Secondo, si è mai chiesto un attimo, Divino, allora Parenzo, dimmi. Il divino Pagliaccio, si è mai chiesto come mai Lanza, in 100 anni di storia, non ha mai ripreso una volta le sue puttanate? Se l'è mai chiesto il signor Divino Otelma? Comunque, mai? Noi cogliamo l'occasione per benedire il popolo della Zanzara. Oh, bene. Ma che benedizio nostra, amatissimi figli, super vos descendat et per septem dies maneat. Quindi siate lieti, per 7 giorni noi saremo con voi. Ma perché? Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Ci ha dato la benedizione, pare. Ma io sto facendo le corna dappertutto, l'aglio anche in tasca. Domenico dalla provincia di Cremona, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo dire che non ce la faccio più a sentire questi sinistri, Parenzo in testa. Sì. Che vomitano insulti sconci su un vecchio di 100 anni. Ancora. Perché si permette di fare una passeggiata per le strade di Roma. io sono molto... Vabbè, lui vuole sputare sulla strada dove c'è Prip, che sarà pure padrone di farlo, no? Signor Parenzo, no? Sì, appunto, appunto, sarà, è liberissimo di farlo. Cioè, voglio dire, sulla strada. Io sono molto più indignato al pensiero che c'è un Cesare Battisti. Ma quelle sono due cose diverse, su, dai, Domenico. No, no, no, aspetta. Ma con me sfonda una porta aperta con Battisti, sfonda una porta aperta, su. Quando ho finito, lei dica se sono due cose diverse. Mm. Io voglio dire, Cesare Battisti, pure omicida, non aveva l'attenuante che ha comunque... Guardi che per me deve stare in galera, deve stare in galera. In tempo di guerra è sotto l'ordine di suoi superiori. Cioè lei sta dicendo Prip che è meglio di Battisti, sta dicendo. Aspetti un secondo, vabbè, quando ho finito poi lei parla. Ma scusi, ma aveva senso, Battisti, non è che decide lei i tempi. Cesare Battisti e tutti gli altri rossi che vanno liberamente in giro, anche a spese del contribuente italiano, questi signori non fanno indignare Parenzo. Ma è un criminale Cesare Battisti, non c'è dubbio. Ma invece non è vero, Parenzo si indigna lo stesso per Battisti, dice che dovrebbe tornare in galera in Italia. Su, è un criminale. No, lui sta dicendo che Prip che agì per ordine di qualcuno, mentre Battisti lo ha fatto per ideologia. E non riceveva ordine da nessuno. Teoria dello solo ma non c'entra niente, dai, non c'entra niente, su, no, dai. Ma cosa non c'entra? Cioè, sono... Ma Domenico, no, d'accordo, ma le due cose non si possono paragonare, dai. Non dico quello che è grave, quell'altro è meno grave. Sto dicendo che io sono un cittadino normale. Io vedo come una parte degli italiani continua ad accanirsi contro un certo tipo di malefatte. Va bene, Paolo da Firenze. Paolo da Firenze, buonasera. Sì, salve, buonasera Cruciani. Dica. Volevo cogliere l'occasione per andare un po' controcorrente e spezzare una lancia a favore di Parenzo, perché secondo me siamo in tanti per cui David sei un mito, veramente. Sono sempre d'accordo con te, tutto quello che fai, sentiti qualche volta anche spalleggiato, perché tutte le telefonate sono contro di te, invece c'è un grosso movimento che ti appoggia. Un movimento, basta, movimento, non esageriamo, dai, su. No, c'è un movimento, ci sono sezioni in tutta Italia. Io volevo dire una cosa, ho provato tante volte a chiamare la Zanzara, no? Dicendo che, volendo, insomma, anticipando quello che avrei voluto dire, non ho mai avuto spazio, invece tutte le volte c'è una persona che inveisce contro Parenzo che trova sempre spazio, quindi non vorrei fosse anche... Ma non c'è nessuno, ma quale pilotate, ma quale pilotate? Sì, infatti non ci sarò più, esattamente così. Vabbè, Paolo, su, dai, forza. Ma hanno pilotato, ha ragione, tutto pilotato. Dai, allora... Forza Siena, mitico. Vabbè, ciao. Oh, ultima puntata dell'anno è con noi Sergio De Gregorio, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, grazie. Ma dove si trova? A casa? È uscito dai domiciliari? Certo, o no? Sono uscito, ho fatto 102 giorni di arresti domiciliari. Dunque lei può girare per Roma, per Napoli, quanto vuole. Può girare assolutamente sì. Libero e bello, come si dice, no? Le ricordo che la carcerazione preventiva si sviluppa in tre casi: quando qualcuno corre il rischio di scappare e io non sono scappato da nulla, quando può inquinare le prove e io non sono più senatore della Repubblica, non posso inquinare nulla, o quando può reiterare il reato e io non posso reiterare nulla perché tutto ciò che ho fatto era collegato al mio ruolo di senatore. Per la famosa storia della compravendita, per la compravendita dei parlamentari. Senta, ma lei che ha avuto Woodcock come PM, questo personaggio che viene molto criticato da esponenti del centrodestra, di cui lei ha fatto parte, centrodestra, com'è come giudice? Mi dia un giudizio così lapidario. Guardi, io non ho mai criticato magistrati, tranne uno imputò di essere mafioso a Reggio Calabria, ma su accuse assolutamente false dalle quali sono stato prosciolto. E ho incontrato magistrati estremamente equilibrati, Woodcock compreso, interessante conoscere la verità. Non si tratta da quella che è stata la mia esperienza, devo dire che con un certo stupore ho notato che non si tratta di talebani armati o di personaggi mobilitati a fare un gioco politico. Mi sembrano persone. Cioè Woodcock è equilibrato come magistrato. Ma guardi, io nella mia vicenda ho potuto riscontrare un certo equilibrio e l'ho anche ringraziato per il suo equilibrio nel Woodcock è equilibrato. Vabbè, chi l'avrebbe mai detto? Altro non so, io non devo dare giudizi. Guardi, sono stati dati tanti giudizi su di me, sì, che io mi guardo bene dal darli sugli altri. Le ricordo però che in un paese in cui nessuno mai chiede scusa, io ho chiesto scusa ai miei elettori, al presidente Prodi. A proposito, mi ha scritto una lettera in cui mi diceva di non serbare rancore. Ma vi incontrerete prima o poi? Ma guardi, io subito dopo l'esito della udienza preliminare, che si concluderà fra settembre e ottobre, credo, c'è un'udienza fissata il 16 settembre, poi probabilmente ci potrebbe essere un ulteriore rinvio, ma insomma appena questa storia sarà incardinata e quindi i miei atteggiamenti non potranno essere in qualche modo interpretati come strumentali, chiederò al presidente Prodi di incontrarmi per raccontargli anche l'atmosfera di quei giorni, le cose che lui non sa di tutto ciò che è accaduto e nei confronti delle quali ha mostrato una certa curiosità e anche comunque si può dire, De Gregorio, che lei è stato l'artefice della caduta del governo Prodi, si può dire? Ma guardi, così sembrerebbe, io in quel periodo ci ho lavorato molto, convinto che il governo Prodi fosse diventato il governo più impopolare della storia della Repubblica, forse non mi rendevo conto del fatto che era cambiata una fase storica e che quella impopolarità sarebbe si sarebbe replicata anche per i governi del dopo, poi come è accaduto. È stato impopolare Prodi, è diventato impopolare Berlusconi, poi lo sono oggi i miei colleghi politici e Dio vuole che io non ne faccia più parte, devo dire felicemente, perché me ne sono uscito senza rimpianti. Parenzo, vogliamo chiedere una cosa determinante a De Gregorio. Intanto lo saluto. Grazie, buonasera. Allora, vogliamo chiedere... È uscito da questi domiciliari, vabbè... D'accordo. No, ma la cosa, ma mica da adesso, mica da ieri, già da un po' di tempo. Lo so. Volevo chiedere ma subito... Ma non ha il terrore di rifinirci in galera? Ecco, non ha paura di tornare in galera, De Gregorio? Ma guardi, le spiego con serenità. Io sono disponibile a confrontarmi con qualunque magistrato italiano avesse necessità di parlarmi. Vabbè. Le mie storie sono state interpretate da più di una procura come storie oscure e tuttavia quando un imputato è disponibile a chiarire, perché dovrebbe aver paura di ritornare? Le ripeto, la carcerazione preventiva è un'operazione che va dosata bene e per fortuna è nelle mani non solo... Ma lei ha paura comunque di finire in galera o no? Guardi, no, perché farò i miei processi, sono ancora un imputato in attesa di giudizio, la mia vicenda è appena alle fasi iniziali, sono ancora incensurato, ho fatto una richiesta di patteggiamento, insomma vedremo. Senta una cosa, però ma devo dire che ho alla fine una coscienza tranquilla e l'animo disposto ad affrontare qualsiasi sacrificio pur di mettere la parola fine a questa storia. Però De Gregorio, io ho letto da qualche parte che lei ha sognato suo padre che le ha consigliato di sputare tutto fuori su Berlusconi. È vero. Ma no, ma non ci posso credere, non è che suo padre le ha suggerito, su dai. Non... Le giuro, guardi, io non sono, né io né i miei avvocati abbiamo la virtù della collaborazione in sede giudiziaria. Una mattina mi sono svegliato e ho chiamato il mio avvocato dicendo andiamo, e lui mi ha detto ma sei matto? Dico no, io devo andare, devo raccontare tutto quello che so, devo mettere la parola fine a questa cosa, poi quello che accade. Ma perché la notte suo padre l'aveva... Lei lo sa che non ho fatto nemmeno richiesta di revoca dei domiciliari, come hanno fatto tutti i miei colleghi che uscivano dal Parlamento e avevano storie giudiziarie. Io non ho chiesto la revoca dei domiciliari, mi sono presentato, mi sono fatto portare alla Guardia di Finanza, ho fatto i miei interrogatori, avendo collaborato avrei potuto contrattare, non ho contrattato nulla. Però scusi De Gregorio, fino all'ultimo lei ha cercato di contrattare con Verdini, diciamo la verità. Non ho contrattato nulla con Verdini, fino all'ultimo mi è stato proposto da Verdini di tornare a fare il senatore e di avere un partito che continuasse ad essere finanziato. Lui dice che lei chiedeva sempre soldi continuamente. Questa è una strategia difensiva di Verdini. Io soldi non gliene ho chiesti, me ne hanno proposti e l'ultima volta me li hanno proposti il 19 dicembre dello scorso anno, quando mi dissero vieni in Senato che di lì ci difendiamo, tanto usciremo in pareggio e lì la giunta la governeremo. Si è visto come la governano, la presiede uno di Sel, che non mi sembra proprio un governare un bel nulla. Senta, come finisce il 30 luglio? Un attimo, poi torniamo su questa vicenda. Il 30 luglio, secondo lei, come finisce in Cassazione per Berlusconi? Lei che è un esperto di queste cose. Non è un problema di date. perché il 30 luglio Berlusconi potrebbe godere come qualsiasi imputato di questo mondo di un rinvio. Vabbè, ma al di là del 30 luglio immagina che i giudici, sì, se si facessero prendere dalla foga di condannare Berlusconi, sarebbero perfino sospetti. Io non credo che nessuno abbia foga di condannare Berlusconi, o fretta di condannare Berlusconi, ma se questa vicenda non si concluderà il 30, si concluderà a settembre e andremo sempre verso quella fase, che è una fase ineluttabile. Berlusconi dovrebbe capire che è finito un ciclo, che è finita un'epoca, dovrebbe decidere di fare un passo indietro, come io gli scrissi, e guarda, non sarò solo io a fare un passo indietro, è bene che lo faccia anche tu, e che metta la guida di questo partito dei giovani. Se l'ha capito, l'ha capito, se non l'ha capito, saranno fatti suoi. Scusi un attimo, perché lei pensa che Ghedini sia la rovina di Berlusconi, la radice di tutti io i mali? Io non ho mai detto che come Ghedini è la rovina. Ghedini di Berlusconi è la radice di tutti i mali di Berlusconi. No, sono stato interpretato male. Io ho smentito quell'affermazione. Ah, che ne so io. E il Fatto Quotidiano, che l'aveva pubblicato, pubblicato anche la mia lettera di precisazione. Scusi un attimo, allora io penso che no però ho capito, lei ha precisato, mi dica una cosa, in tutto lei quanti soldi ha preso o avrebbe preso da Berlusconi per la questione della corruzione dei senatori? Io sono stato finanziato per 3 milioni di euro, di cui uno come contributo ufficiale al partito, due in nero. Perché me li abbiano dato in nero? Me li abbiano dati in nero, onestamente non lo so, non sarebbe nemmeno nata tutto questo scandalo. Però io li ho presi e quindi ho il disvalore di un comportamento da scontare e delle responsabilità che mi hanno pesato. Quali sono i nomi che non sono stati fatti ancora nella vicenda della... Guardi, non lo so, lei pensi che nell'ultima legislatura, quella che ho appena lasciato, che ho lasciato nel febbraio scorso, si sono spostate 120 persone? No, lo so, poi a un certo punto... Berlusconi ha dovuto fare campagna acquisti, evidentemente, come i suoi stessi dichiaravano ai giornali, per convincere deputati, in quel caso non senatori, a passare col PDL per conseguire il voto. Si è fatto il nome di Barbareschi, per esempio. Io ho fatto un solo nome, quello che mi è stato riferito e che ho... Quello di Barbareschi? Certo, di Barbareschi, perché mi fu detto da Verdini che Barbareschi aveva chiesto per ripassare da lì, dove era andato via sputando su Berlusconi, al PDL una fiction a Mediaset. Evidentemente quella fiction gliel'avranno data, poi non sta a me giudicare. Questo glielo disse Verdini? Tutta questa sceneggiata, vado via da Fini perché lì si respira un'aria ammorbante, poi ritorno dietro, insulto anche qualche collega. Lei avrà visto che Barbareschi ha chiesto scusa con una pagina pubblicata sul Corriere della Sera a Katia Polidori per averla insultata in quel caso, perché anche lui c'ha il vizio di voler apparire incorruttibile, ma questa politica purtroppo incorruttibile non lo è e non lo è. Vabbè, comunque, secondo lei, secondo quello che le hanno riferito, Barbareschi tornò con Berlusconi in cambio di fiction televisive, è così? Di una fiction televisiva a Mediaset che mi disse Verdini ebbe una grande difficoltà a far passare. Ovviamente questo, gli interessati smentiscono tutto, gli interessati smentiscono tutto, lo stesso. Dio voglia che siano innocenti. Barbareschi dice: io ho venduto falso, in Silvio ho visto la luce. Vabbè, questo. Chi? In Silvio ho visto la luce. Chi l'ha detto? Barbareschi dice: è falso. Beh, allora è stato folgorato sulla via di Damasco. Si vede che ha avuto una visione miracolosa. Sono fatti suoi. Allora abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Se Parenzo è tornato, perché qui come al solito siamo all'ABC della radio. La Zanzara. Zanzara 800240024 con David Parenzo, in collegamento molto complicato questa sera da Siena, come al solito, no, ma non ci stupiamo. Orvieto. Da Orvieto. Ma scusa, come stai andando da Siena a Roma? Perdonami. Con il torpedone. Ah, sei in torpedone adesso? Sì. Ah, no, non sapevo che eri in torpedone. Ma interroga qualcuno accanto a te se sei in torpedone, allora, oppure non puoi strillare in torpedone, No, è molto pieno. Qui una, però ti dico che l'autista sta ascoltando come sempre la Zanzara. Sì. E al mio fianco c'è il signor Manganaro. Come? Manganaro. Ma non Mangano, Manganaro. No, non Mangano. Sì, signor Mangano. No, Mangano. È uno dei più grandi sostenitori del governo Letta, mi pare, no? No. No. Grande sostenitore, no. È un fan proprio assoluto. Ma no, ma ha detto di no, ha detto di no, ha appena detto di no. Lei sta andando a Roma perché c'è una manifestazione. No. Ecco, ha detto di sì. No, perché vado in Calabria. No, perché c'è il governo Letta da sostenere, no? Ma che frega? Allora, è uno che sta andando a Roma. Come? Ma a Roma per cambiare pullman. Come? Ma a Roma per cambiare pullman. Scusi, ma perché vai in Calabria in autobus? Non ho capito. Perché lei va in Calabria in pullman? Ma ho capito, ma perché in autobus? Esistono i treni, esistono i... No, perché il paese reale... Tu vedi quello che non capisci, perché nella tua... No, ma chiedilo, perché si risparmia, chiedilo. Ma perché quel pullman in Calabria? Perché in aereo non c'erano posti. Non ci sono posti, anche in pullman. No. Non è economico, no? Non c'erano posti in aereo, ma... Cioè, il paese reale che noi dovremmo raccontare, ma non ci sarà una seconda Cioè della Zanzara... da settembre è questo, cioè questa è l'idea, quella di raccontare ogni giorno queste storie di manifestanti che vanno a Roma per Letta, sì, no? Sì. Questa è la verità, sì. No, lui dice che ma va in ferie, non va a manifestare per il governo Letta, non gliene frega niente a nessuno. Questo lo dici tu. Vabbè. Signore, sta andando. Certo, chiedili se è appassionato alle regole sul congresso del Partito Democratico, su cui oggi si sono scannati inutilmente i leader del PD. È interessato alle regole sul Partito Democratico? Chiedilo. No, lei interessa questo congresso, le regole del PD? Interessa? Vabbè, fallo parlare però, su. Il potere non lo molla nessuno, vabbè. Siamo con il senatore Sergio De Gregorio in collegamento da Roma, l'ex senatore Sergio De Gregorio. Scusi De Gregorio, secondo lei in tutto quante persone avrebbe corrotto Berlusconi tra il 2006 e il 2010? Non lo deve chiedere a me. No, guardi, ma in tutto, secondo lei, quante persone avrebbe comprato? Sono stato protagonista. D'accordo, ma secondo la sua esperienza, in tutto... Ma cioè... No, guardi, non posso fare alcuna 20, ipotesi, 20. Altrimenti divento uno di quei cialtroni che, per dirla grossa o per inseguire i titoli dei giornali, non devo inseguire nulla. Io devo dire le cose che so. Ho detto solo le cose che sapevo e che potevo documentare. Vabbè, questo sì, ma secondo lei le operazioni del 2006 e del 2010? Secondo me c'è stato un po' di spostamenti e certamente non tutti erano folgorati come Barbareschi dalla luce di Berlusconi. Quanti soldi sono stati impiegati secondo lei per tutti questi spostamenti, per alcuni di questi spostamenti? Guardi, il problema dei soldi è un problema che Berlusconi non ha. Tutto il mondo della politica, compresa questa fase, è dominata dal potere economico di Berlusconi. Perché in questa fase perché è dominata? Il PDL resiste ad ogni tipo di pressione interna, di dibattito democratico, perché se no le campagne elettorali chi le paga? Lo sa che in cassa al PDL non c'è una lira? Io lo so, anzi lo so. Ci sono debiti e che Forza Italia ha un debito, credo, che giri intorno ai 50 milioni di euro. Anche lei aveva un sacco di debiti, dicono, anche lei aveva un sacco di debiti e per questo si rivolgeva a Verdini, non è che... Chi li paga questi soldi? Scusi un attimo, perché adesso il dibattito tutto è ancora condizionato dai soldi di Berlusconi, De Gregorio? Perché Berlusconi muove le sue azioni accompagnandole con accompagnandomi con il suo potere e la sua forza economica. E ci sono tanti che alzano la voce e che poi non si sa se tornano indietro perché affascinati dal personaggio, o magari da qualche prebenda, o magari da qualche offerta, o magari da qualche fiction, da qualche conduzione televisiva, che ne so. Lei mi faccio un esempio recente, però perché... Ma guardi, io ne ho viste tante, appunto, io ne ho viste tante, ma dico quello che so. Pensi che, diciamo, ho visto perfino i miei collaboratori perdere la fidanzata, no? Sì, questo lei l'ha raccontato, Qual era quell'esempio? Cioè Berlusconi voleva assolutamente conoscere la fidanzata? Conoscere la presentatrice di una mia serata alla quale lui partecipò come ospite d'onore. Il mio collaboratore era fidanzato con una bellissima ragazza. Che era questa qua? Che era questa qui, sì. Io gli dissi per non gliela presentare, lui gliela presentò perché nel frattempo lei volle candidarsi alle elezioni politiche in una piccola città del Veneto, e Berlusconi, che non aveva avuto il numero di telefono dal sottoscritto perché non faccio il ruffiano, finì per tirarsela a bordo. Lei partecipò a qualche cena a Palazzo Grazioli, il mio amico si mise a piangere e fece qualche settimana di purgatorio con la barba lunga e gli occhi languidi. Cosa che succede? E lei lavoro a Mediaset. Cioè adesso lavora a Mediaset, non ho capito. Certo, lavora. Ma come si chiama? Non glielo dico perché sarebbe poco gentile. Ma ha fatto tutta la trafila, adesso ci deve dire il nome. Non glielo dico perché Guardi, io ho parlato di politica e non di pettegolezzi. Ma però questo è sintomatico di una delle cose. Cioè, Berlusconi ha avuto una storia con questa qua? Eh? Ha avuto una storia Berlusconi? Glielo posso dire io, secondo lei? Magari l'ha aiutata perché era in difficoltà. Che ne so? Non lo so manco. Secondo io. Lei delle non due mi faccia dire cose che poi danno adito a querele da parte dell'uomo. Delle due quali sono? Era in difficoltà oppure ha avuto una storia con questa? Boh, e che ne sa? Che ne sa lei? Beh, diciamola tutta però. Dimmi. Caro De Gregorio. Sì. Che dobbiamo avete dire? Frequentato delle persone, cioè se lei avesse frequentato persone vagamente meno discusse, non si sarebbe trovato in mezzo a tutti questi casini. Cioè, dovrà fare un mea culpa anche rispetto alle persone. Ma l'ha già fatto mille volte, dai. Che l'ho fatto pubblicamente. Io ho conosciuto migliaia di persone perché avevo la presunzione di costituire un movimento nazionale transnazionale. Sì, transnazionale. Ma sapesse quante volte mi sono pentito. Sì, transnazionale, perché lei non sa, per esempio, che il senatore De Gregorio nel 2006 veniva premiato al congresso americano da Rick Santorum, oggi candidato alla Casa Bianca, e dai deputati italoamericani, da Robert Brady, oppure che veniva ricevuto in Argentina con grandi onori da tre ex presidenti. Insomma, le posso raccontare una ma storia. Ma è vero lunga. È vero che lei, il ministro De Girolamo, si presentò a Berlusconi con un curriculum dentro un peluche? A me è stata raccontata così. Mi hanno detto che in una mia manifestazione. Ma sempre derelato, De Gregorio, una cosa che. Ma lei... me l'hanno detto dei miei collaboratori, di cui posso fare come cognome. Se il ministro De Girolamo mi dovesse querelarmi, mi difenderò e forse dimostrerò il contrario. Ma. Cioè, la De Girolamo, attuale ministro, secondo quello che le hanno detto, consegnò un curriculum a Berlusconi per presentarsi a Berlusconi. Presentata da un mio collega senatore di Benevento, il senatore Izzo, che poi si pentì di averla, presentata e diventò il suo peggiore nemico. A Berlusconi diede un curriculum dove? Dentro un peluche, in una manifestazione il 28 gennaio del 2008 al Teatro Tenda Partenope, dove c'erano 7.000 miei seguaci e dove Berlusconi aveva detto: vuoi che porto un po' di gente? Dissi: no, guarda, la gente la porto io. Fra quei 7.000 c'erano buoni e cattivi, certo, non ho frequentato tutti i professori universitari, però voglio dire, c'era anche brava gente che lavorava e produceva cercando che di fine ha fatto, che fine ha fatto secondo lei la famosa cassetta di Di Pietro, la registrazione dell'ex? Quello non lo deve chiedere a me, una roba che dimostra un atto di corruzione nelle mani di un ministro della Repubblica che la riceve da due suoi senatori che gli dicono che è una roba gravissima, che l'affida a un capitano della Guardia di Finanza o di un tenente della Guardia di Finanza che fa parte del suo staff e che poi se la perde. Ma insomma. E dove è finita secondo lei? Lo vuole sapere da me, lo deve domandare. No, ma lei ha un'idea di dove possa essere finita questa cassetta? Ma in Italia di ricatti incrociati, di storie torbide, eccetera, che ne so, magari pure Di Pietro avrà pensato che non era il caso di portarla alla Procura della Repubblica. Cioè, se l'ha inguattata lui? Se l'ha nascosta? No, secondo lei l'ha nascosta lui? Che ne so, io mica posso dirle una roba del genere. Posso lei mi sta che dicendo anche aveva di... il dovere di depositarla. Alla d'accordo, Procura il fatto che non sia venuta fuori, secondo lei significa. Il fatto che non sia venuta fuori in termini politici può significare anche sottostante trattativa, ma non lo posso dire ovviamente con certezza perché non ne sono stato testimone. Parenzo? Voglio dire, sì. De Gregorio, buon De Gregorio, io non so che cosa è. Però tu ci credi, a questo De Gregorio pentito, questo De Gregorio che prima è stato con Di Pietro, poi con Berlusconi, eccetera, eccetera, adesso perché a un certo punto il padre di notte gli ha consigliato una cosa e sputa tutto quello che deve sputare, confessa tutto ai giudici contro Berlusconi, ci credi o non ci credi? Volevo dirgli proprio questo. Lei scusi, crede al fatto che io mi vada a caricare? No, è una domanda a Parenzo. Mi faccia capire qual è la motivazione. Io mi carico di reati di imputazione che dovrò perché ascoltare. Magari non aveva un'altra strada, non aveva un'altra per fare cosa? Perché? Per fare cosa? Io posso dalle mie questioni mi sarei potuto difendere fino alla morte e fino a questo momento non ho altre imputazioni che quelle dell'avanti. Mi faccia capire perché mi devo caricare altri reati. Parenzo. Senatore, ho ipotizzato che lei avesse le mani dentro la marmellata, quindi secondo i giudici aveva proprio le mani dentro la marmellata. A un certo punto, mentre si stava leccando le dita di questa marmellata, ipotizzo dei giudici, lei ha cominciato a cantare, diciamola così per semplificare, no, il linguaggio della zanzara. questa è l'impressione che lui allora, l'impressione è una cosa, i giudici hanno stabilito che io ero un fornitore dell'Avanti, che marmellata pubblica non ne avevo toccato, che avevo lavorato nel mondo privato dei miei affari, delle mie consulenze, che non avevo toccato fondi pubblici come molti altri, che dei 22 milioni di euro dell'Avanti ne avevo ricevuto soltanto 7 in 7 anni come fornitore del giornale per confezionare quel quotidiano che usciva in tutta Italia, che comunque vabbè, però lasciamo perdere questa questione, mi faccia capire qual è la marmellata. No, non lasciamo perdere questa questione, Parenzo, lasciamola perdere. E Berlusconi, secondo lei, ancora ricattabile? Lei ha detto una volta è l'uomo più ricattabile d'Italia, è ancora così? Ma Berlusconi ha probabilmente dimostrato al mondo della politica italiana che quando non si può ottenere un risultato, e non le parlo solo del mio calcio, un risultato con le armi dell'ordinario, si usano tutti i poteri, compresi i soldi. Quando sei disponibile a tutto pur di arrivare al risultato, finisci per essere ricattabile da tutto il mondo. Ed è la storia di Berlusconi. È triste. Anche per me, che gli sono stato vicino, vedere che qualunque ragazzetta si alzi la mattina e batta i piedi per terra protestando per essere stata dimenticata e piangendo per non essere alla corte, gli vada addosso, lui poi debba compensarla con un po' di soldi, qualche casa e qualche prebenda. Vabbè, questo quello i che casi, lei... I casi non glieli devo raccontare io, sono sui giornali tutti i giorni. Appunto, lei sono cose che ha letto sui giornali, oppure sa qualcosa in più rispetto a queste cose qua di donne? No, io nelle cose di donne ne so pochissimo. Alle scene, alle scene non c'è mai stato? No, non c'è cioè, stato. A lei per esempio... Quando ho fatto cene da lui ero in compagnia di altri senatori e parlavamo di argomenti di alto, di alto livello come quello. A lei non piacciono le donne, De Gregorio, a lei non piacciono le donne come piacciono Berlusconi? Mi sono sempre piaciute, ho una moglie che è più giovane di me di 18 anni, si figuri se posso io criticare Berlusconi, non me ne può fregare di me. Però da questo punto di vista dice lei è ricattabile? È ricattabile da chiunque da abbia chiunque partecipato con lui, mi scusi, ma perché? Ma che succedeva secondo lei a ste scene? Nicola Vitola si è fatto 13 mesi in carcere durissimo. Ma secondo a queste scene che succedeva secondo lei? Ma non lo so, io credo a quelle che sono le intercettazioni del processo Rubi. Dunque? E si vede che il quadro era, il quadro era controverso, controverso, inquietante. Inquietante addirittura, lei dice non critica Berlusconi per i rapporti con le donne e poi dice inquietante. Inquietante perché? Guardi, se Berlusconi ha avuto una condanna a Milano, mi auguro che dimostri la sua innocenza in appello e a Cassazione, glielo auguro, ma se ha avuto una condanna è perché quel processo non era gravato da testimonianze di testi affidabili o meno, ma da una prova documentale che erano le intercettazioni telefoniche. Beh, De Gregorio, maturate in un periodo difensore dei giudici è una cosa nuovissima. Va bene, senatore, grazie, grazie, a presto, grazie, saluto, grazie. Arrivederla, grazie a lei. Pubblicità, pubblicità, dai, pubblicità. La Zanzara. Quando la zanzarita. Mattia da Cagliari, buonasera. Buonasera carissimo, come andiamo? Bene, dica. Guardi, io stavo chiamando prima perché aveva molto colpito la discussione. Un attimo, un attimo. Sì. Mattia, dica. Allora, mi sentite bene, sì? Sì, sì, dica. Sì, perfetto, vi stavo chiamando prima perché aveva molto interessato questa conversazione che stavate facendo riguardante appunto il tema delle nuove leggi contro le discriminazioni sull'omosessualità e affini. Perché sono un po' preoccupato per come questo fenomeno stia prendendo piede, dato che mi sembra quasi... Ma cosa sta prendendo piede? Cos'è che sta prendendo piede? Il fenomeno comunque della riequilibrazione, della nuova parità fra etero e omosessuali. Ma parla, parli forma... come mangia, ma di che sta parlando la riequilibrazione della cosa? Ma di cosa vuole parlare Mattia? Proprio di questo fatto. Ma di cosa? Legge, di cosa? Anche della legge che stanno facendo adesso sulle pari opportunità, sulla contro la discriminazione sugli omosessuali. Vabbè, allora? E allora che mi sembra proprio che sia veramente eccessiva, perché sta andando a ledere la libertà di espressione, perché se continua così non si potrà dire più nulla contro gli omosessuali. Ma chi lo dice questo qua? Chi lo dice? Beh, guardi, questo è spiegazione diffusa. Lei che cosa ha contro gli omosessuali? assolutamente nulla, però sono preoccupato per un ribaltone di tendenza. Ma perché qual è sto? I ribaltoni sono quelli dello sport, i ribaltoni di tendenza. Qual Vabbè, è sto ribaltone? Speravo di poter fare una discussione più autentica con lei, ma vedo che vuole autentica, fare autentica di cose, il ribaltone. Il ribaltone di tendenza. Pietro dove chi è? Pietro Varese. Ecco finalmente qua i due qualunquisti. Eccoci. Eccoci qua, finalmente, sai perché siete qualunquisti? Perché parlate come tutta la società al giorno d'oggi, la televisione. Io parla manco per niente. Sì, tu Parenzo sei più qualunquista di tutti, ma capisco, lavori in televisione, così per cui devi essere così, se no allora fuori subito. Voi che siete schierati ufficialmente a favore del matrimonio gay, siete dei grandi difensori, fate la vostra campagna personale qui, avete una responsabilità enorme che vi dovete giocare sempre tutti i giorni e soprattutto non tanto soprattutto sul matrimonio ma sull'adozione da parte delle coppie gay. Tu parente Cruciani sei partito un tempo che non eri tanto d'accordo, poi ti sei lasciato. No, io sono sempre stato d'accordo sui matrimoni gay. Allora io dico, faccio questa provocazione qua e tu devi fare una campagna allora a favore. Un attimo Parenzo, vai. Ci penso io. Ah, devo dirgli due cosette. Squilla e non risponde. Perché l'altro giorno mi ha trattato malissimo. Appunto, lo so, me l'hanno detto. Molto male. Anche con te non ha usato parole di miele, eh? Lo so, però non risponde. Non risponde perché Berlino, il transatlantico. Non risponde però, non mi risponde. Mi ha letteralmente mandato a fare in culo, volevo regolare un attimo i conti col signore. Lo so. Anche perché ha fatto una cosettina in questi giorni. Sì, si vuole tenere il malloppo, Si vuole tenere il malloppo questo signore. Se bene rendesse conto alla pubblica opinione della Vabbè, parola. Pietro, allora, che dice? Sì. Allora, dicevo, io sono single. Sì. Ok? Allora, visto che facciamo tutta questa campagna qua, io voglio un figlio. Voi dovete fare una campagna perché i single possano avere dei figli in adozione, così non è un diritto per voi. Ma va bene Pietro, va bene anche questo. No, va bene, dovete fare una campagna per questo, visto che per voi è un diritto. Che cazzo non serve più allora sposarsi? Lasciate stare, cosa vuol dire? Io vivo con mia sorella e con mia madre. Il figlio vedrà che stiamo bene insieme, così. Cioè, vi rendete conto che andiamo verso questa direzione qua? Cioè, la vostra responsabilità è enorme rispetto a questo. Voi parlate e giustamente avete la vostra posizione, così, ma sì, adottiamo perché è un diritto di tutti, ma state portando avanti dei discorsi che hanno un'enorme responsabilità sulle generazioni che stanno Senta arrivando. Pietro, non mi rompa i coglioni sulle enorme responsabilità. Io sono a favore del matrimonio gay e dell'adozione. Lei è a favore o è contrario? No, io sono altamente contrario. Benissimo, lei è contrario. No, non si fermi così, perché poi adesso tocchiamo il tasto dell'aborto, altra cosa su cui fate le vostre campagne. Ma io non faccio nessuna campagna, ma... No, qui lo sentite più di una volta. Voi siete... Non vale un cazzo? Commercializziamo gli embrioni. Vabbè, Pietro, mi ha rotto le scatole. Dovete avere i coglioni di essere ma che fine in fondo? Perché voi non avete le palle di andarsene in fondo, questo è il vostro problema. Cosa dovremmo sostenere? Cosa? Fino in fondo alle vostre scelte. Rimanete lì nel limbo dove tutto va bene, dove tutto è politico e ricorre. Abbiate le palle, commercializziamo gli embrioni. Ma che c'entra commercializzare gli embrioni col fatto di essere d'accordo su... Perché se l'aborto, se l'embrione non è un cazzo per voi, lo dobbiamo... Ma chi ha detto che non è un cazzo? Chi lo dice? Ma chi lo sostiene che non è niente? No, l'ho già sentito più di una volta. E è una questione della... È un diritto il figlio. Voi dovete darlo a tutti, singolo, a chi vuole. È un diritto. Quindi dovete darlo a tutti. Voi dovete arrivare in fondo alle vostre questioni, questo è il punto. Dovete arrivare fino in fondo. Grazie Pietro, grazie. Matteo da Parma, Matteo. Sì, Cruciani, allora qui abbiamo un problema. Noi abbiamo un parco bellissimo, si chiama la Cittadella, dove andiamo a correre, e si può fare tanto footing ed è popolato da donne bellissime. Quindi è il posto per lei, ok? Sì. Beh, per me adesso non è che io vado nei parchi a cercare ventura, abbia pazienza, per fortuna non ho bisogno di questo ancora. Per correre. E lì m'han detto si vede un signore in bicicletta che avanza, fende l'aria col suo volto che guarda in alto, così, sempre accompagnato dalla mamma, e sarebbe Langone. Camillo Langone, sì. Esatto. Allora io non so se è Camillo, non è Camillo. Ma qual è il punto? Cioè, se uno va al parco con la mamma, non ho capito. Allora, andare al parco con la mamma in bicicletta, anziché a smicciare le ragazzine che ce ne sono tante, potrebbe essere visto come un atteggiamento equivoco. Quindi io, ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Cioè, non è vero. Non lo so, se noi pensiamo, come dice Busi, che i più grandi anti-gay sono dei gay repressi. Allora, lei sta dicendo, sta dicendo che Camillo Langone, che dichiara essere omofobo, anti-gay, in realtà è un gay represso. No, non dico lui, forse un suo sosia, non so, assomiglia molto. Da quello che so, da quello che so è uno che invece che... Ma io sono contento, allora lo seguirò. No, è uno cui piacciono molto le donne, anche in maniera piuttosto così. Però sa andare a donne, io, lei, Langone, la mamma, mamma mia, in casino. Vabbè, ho capito, non è che uno, ma non è che uno non può andare al parco con la mamma adesso. Comunque, Camillo Langone, che è uno scrittore ed è uno che orgogliosamente dice di essere omofobo e contro i gay, abbiamo provato a contattarlo oggi, è finito in questo modo. Pronto? Camillo? Sì. Ciao, sono Cruciani. È parente, oddio, ciao, no, mi fai schifo tu, mi fa schifo il tuo programma. Ma scusa, non ho capito perché. Su questo ha ragione. No, però non esiste proprio. Ma perché non vuoi parlare di Froci con noi? Chiama Giovanardi. Ma perché non vuoi parlare di Froci con noi? Non capisco. Non esiste proprio, non esiste proprio. Perché? No, no. Spiegami. Non vengo a fare il pagliaccio. Ma non il pagliaccio, a combattere sull'omofobia, sui Froci, la tua, perché no? No, perché no? Perché preferisco scrivere, sono uno scrittore. Ma lo so che sei uno scrittore, dai, non ti voglio pigliare per il culo. Perché pensi. Scusami, Camillo. Lo farai. Sei... Ma perché lo farò? Un nero, un mendace. Ma che un mendace? Che vuol dire un mendace? Un mendace, informati, leggi cosa vuol dire, vai su Google, mendace. Ma lo so che vuol dire mendace. Sì, no, che sei un mendace, ha ragione Langone, su questo ha ragione. Ti passo sei Parenzo, magari ti convince Parenzo. Non voglio sentire Parenzo, va bene, statemi bene. Dai, ciao. Camillo! Beh, siccome si permette, cosa vuoi che non voglio sentire Parenzo? Mi fate schifo, a me fa esaltare questa cosa, mi fate schifo, mi fai schifo. La trovo una cosa stupenda, quando uno dice mi fai schifo, mi godo da morire. Non capisco perché tu hai una considerazione così di te stesso, ma non capisco perché diciamo non voglio sentire Parenzo, ma come si permette? Ma succede, ma fattene una ragione, sei diventato tutto precisino, c'è gente che non ti sopporta come c'è gente che non sopporta me. Rolando, provincia di Ancona. Rolando, provincia di Ancona. Ultima, ciao, sì. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao Rolando. Spero che Parenzo non la prenda, che rispetti le mie idee. Volevo dire qualcosa sul primo che è. Che vuole? Uno. La cosa che più mi dà fastidio è che noi come cittadini italiani paghiamo la scorta a una persona. Ho capito, che ha pagato il conto con la giustizia. Ovviamente. Ho capito, a lei potrà dare fastidio, ma se quello viene minacciato e se uno... È giusto che ci sia. Ma allora perché? L'Italia prevede... Però devo dire una cosa. L'Italia prevede, per motivi anche di sicurezza, opportunità e ordine pubblico, l'espulsione anche per il cittadino comunitario. Se noi lo mandassimo nella sua Germania, perché lui non era in Italia quando è stato arrestato. Ma guardi che in realtà quelli che sono contro Pripke, cioè quasi tutti, io sono contro. Io sono contro. Sì, ho capito, anche secondo me dovrebbe andare via, ma ormai si è radicato qua, cioè. Ma proprio per evitare anche il rancore che il signor Parenzo porta, giustamente, perché dice perché lui deve festeggiare i 100 anni, ma perché non ha la libertà di festeggiare? E nello stesso momento, perché per chi come Parenzo e come tanti altri hanno avuto i nonni o ammazzati o comunque ricambi di concentramento, un minimo di rispetto andava dato, un minimo di rispetto verso il cittadino italiano con un'espulsione con motivi di sicurezza, perché gli danno la scorta, motivi di sicurezza, per gli stessi motivi lo si poteva prendere e dire cara Germania, riprendi il tuo cittadino, fagli festeggiare anche i 200 anni, ma gli fai festeggiare a casa sua, nella sua terra dove è nato, sì. E buonanotte. Va bene, Nino da Roma, Nino. Parenzo? Sì, c'è Parenzo, c'è. C'è Parenzo, meno male. Ok, io sono Nino da Roma, volevo dire un paio di cose. Sono comunista, ma vado a puttane. Naturalmente non da quelle poverette che battono il marciapiede, ma quelle che si fanno pagare lautamente. Fatta questa premessa, volevo chiedere, io ho chiamato per fare una domanda a Parenzo, volevo chiederle perché lui sputerebbe a Pripke e poi gli direbbe merda incontrandolo per strada e poi non giustificherebbe il papà o lo zio di uno dei ragazzi uccisi da Cabobo, mi perdoni, e non ammetterebbe poi il fatto che uno lo va a aspettare sotto casa e gli mette le mani al collo. Ecco, io vorrei sapere questo, per piacere. Parenzo? Perché dico a questo intelligentone che si dice comunista e va bene, e che dice di andare a puttane, e questo per me va meno bene, ma poco male. Nino, quando è che va a puttane lei? Ogni volta che ne ho voglia. Ma quanto ci va? Almeno due volte al mese. Due volte al mese, ma dove va? Sì, sì. Ma dove va? Normalmente zona Milano. Zona Milano, ma dove vai? Sì. In qualche casa particolare oppure per strada? No, le contatto tramite dei siti, le pago. E le paga, ma dove alloggio? Le pago molto, Tipo quanto paga? Ma guardi, la tariffa va tra le 500 e le 700 euro. Ottimo. Questo per dire che agli italiani, a tutti gli italiani, ma a tutti gli uomini del mondo, piace la fica, così come piace a Fede, piace a Mora e a Berlusconi. Hai capito, Parenzo? Mora e Fede sono stati questo condannati perché gli piace la fica e loro non si vergognano a dirlo. Beh, a Mora la fica piace anche a lei, Cruciani. A Mora un po' meno. A Parenzo. Sì, vabbè, quello è chiaro. A Mora un po' meno, devo dire. Comunque. È l'emozione, chiedo scusa. No, scusi, ma queste qua che lei paga e che contatta, poi dove vai? In albergo? No, normalmente posso andare da loro. Da loro, Sì. Ma straniere sono? Per lo più russe e ucraine. Russe e ucraine. Parenzo, però devo dire la verità, dovremmo trasformare nella prossima stagione, se mai dovessimo alloggiare qui. Lo spero vivamente. Una grande inchiesta sulla prostituzione in Italia. Bravo. Dovremmo fare le grandi inchieste della zanzara. Perché tutti ci vanno, tantissime persone, anche gli insospettabili. A questo signore che è libero di spendere i suoi soldi come cavolo vuole. Ma perché uno non può spendere 700 euro per andare a puttane? Spiegami. Ok, è libero, ma secondo me sarebbe più bello, anche più soddisfacente anche per lui. Ma non mi permette di dire cosa è soddisfacente per lui. Sì. Io penso che sia più bello conquistarla una donna. Ma che c'entra? Che cosa? Signor Parenzo, posso? Questa persona che invece ha soltanto... Vabbè, c'è la borsa, un attimo, c'è la borsa, torniamo subito. La zanzara. Uno dei momenti epici di questa stagione, l'avvocato Carlo Taormina contro la pornostar Grimaldi, Elena Grimaldi. Il tema, ovviamente, i gay. Sei favorevole, Elena, al matrimonio tra omosessuali, sì? Assolutamente sì. Capito? Perché negargli una cosa più bella se vogliono, se stanno bene tra loro? Ma fate come cacchio volete, guarda. Se si ama. L'amore è bello perché è vario. L'amore è bello perché è vario, sì. Ci siamo noi per vietare delle persone di amarsi e di poter fare una famiglia. Noi stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un ordine sociale, che è una cosa. Ma quale ordine sociale, dai? Ma lei non crede nell'ordine sociale, io credo nell'ordine sociale come espressione dell'ordine naturale. Professor Taormina, sai che la signora Grimaldi è stata pensa in maniera diversa. Abbiamo capito. Lo cacciano, li rispetto, basta che rompano i coglioni a me, tutto qua. Lo sa che la signora Grimaldi. A me, per esempio, dover assistere durante a Roma o in qualsiasi altra parte a queste porcate dei gay pride, dove questi si vestono come si vestono, vanno girando in quel modo. Che senso ha? Mi dite che senso hanno questi esibizionismi? No, che cazzo di senso hanno? Questo hanno vorrei senso, capire. Hanno se senso me lo posso dire alla signora Grimaldi. Lei che la gente lo nasconde. Aspetti, signora Grimaldi. Scusi, ma lei che è un'attrice, allora mi spieghi per quale ragione ci si debba periodicamente esibire in quelle porcherie sui carri in cui siamo tutti quanti dipinti con mezze cose di fuori. Libertà, si chiama libertà. Faccia rispondere, Taormina. Ma quale libertà? Ma la libertà è mostrarsi come porci, come fanno questi al gay pride, scusi. Ognuno è libero di fare, finché non fa male, è libero di fare quello che vuole. Perché devo subire questa violenza di andare per le vie della città e trovare i carri con questa gente che fa schifo? Faccia rispondere a Grimaldi. Prego, le chiedo scusa. Credo che ce ne siano molte di più di violenze che subiamo tutti i giorni e molto più gravi. Sì, vabbè, ma la gente si sente libera di esprimersi in quel modo, perché no? Non vedo niente di male, Ma sono frasi fatte, guardi, le conosciamo bene. No, non sono frasi fatte, assolutamente. Sono frasi fatte. Io credo nella libertà di potersi esprimere come e quando. Ma la libertà non è. Grimaldi, lei, un attimo, Taormina. Gli eterosessuali fanno le stesse i carri con le cose per dimostrare. Vabbè, ma che c'è? Guardi, le dico una cosa: gli eterosessuali fanno cose molto, molto peggio nel loro privato, nascondendo. Un attimo, professore, faccia parlare. Allora. Gli eterosessuali fanno cose molto molto peggio, ma perché altrimenti in Italia non esisterebbero migliaia e migliaia e migliaia di club privé, di club di scambisti. Allora, perché queste persone vanno bene e se lo fanno due gay invece no? Bravo, io sto parlando dei gay pride. Lasciamo perdere i gay pride. Gay pride c'è la persona che va in giacca e cravatta, c'è la persona che invece va bravo perché se lei se ne va da omosessuale in una discoteca e si fa i cavoli suoi con l'uomo che ha scelto, a me non me ne frega niente. A me professore, ma lo sa che la signora Grimaldi è stata anche con le donne? Che lei è stata anche con le donne, no, signora Grimaldi? Ma sono cavoli suoi, a me non me ne frega niente. A me quello che interessa è che non ma ci perché le dà fastidio se due uomini o due donne si baciano per la società che abbiano. A me fanno schifo, io posso fare, mica posso superarmi, non ho capito. Il professore Carlo Taormina ed Elena Grimaldi, uno degli scontri epici. Nino? La frase chiave. Qual è la frase chiave, Parenzo? È quando lei è bacato in testa, meglio bacato in testa che... No? Che bacato in culo, sì, sì. Quello che disse il professore al massimo del suo... Fulgore. ...tensione intellettuale. Vabbè, Nino, allora... Sì, ma io prospetto settembre, ma non chiudiamo i battenti. No, abbiamo detto questo al grande pubblico. Non lo so, non lo so. Non si sa cosa succederà. Non si sa che succede. Diciamolo al grande pubblico della Zanzara. Vabbè, Nino, allora che cosa succederà? Io avevo fatto una domanda a Parenzo. Qual è la domanda? Volevo sapere perché lui griderebbe merda a Pritke. E peraltro io sarei d'accordo, anzi, io se incontrassi Pritke per strada con tutto ciò che non sono ebreo gli darei un calcio. Vabbè, in culo lui augula. Io voglio sapere perché quello. All'altro tizio invece non per l'altro tizio non sarebbe giustificato mettergli le mani al collo. Il fatto che non abbia capito non mi stupisce, glielo dico in 30 secondi. Vabbè, io non metterei le mani addosso a nessuno, non ha studiato, okay. Io non metto le mani addosso a nessuno, a nessuno. No, a Pripi che vorresti mettere le mani addosso, come no? No, assolutamente. Ma tu poi è una persona anziana, non mi permetterei allora... né a Pritke né tantomeno a Cabobo. A entrambi non metterei le mani addosso. Ho detto che se camminassi per strada e lo incontrassi dall'altra parte della strada, non addosso a lui, ma per dove ha camminato, una volta che lui ha superato, sputerei per terra e lo manderei a fare il culo. Vabbè, ma questo è un modo leggermente più elegante di dargli un calcio nel culo. Ha ragione, Luigi da Firenze. Fammi sentire Luigi da Firenze. Luigi, buonasera. Dica. No, niente, io dicevo che una volta tanto mi trovo d'accordo con Parenzo, soprattutto su Pribi, che visto che si tocca questo argomento. Anzi, è stato troppo gentile, secondo me, Parenzo, dicendo sputo a terra. Perché che fine pensavo, dovrebbe fare il signor Pribi? Pensavo che lui dicesse gli sputo in faccia, come si meriterebbe. È una vergogna che sia venuto a Roma, nel luogo dove lui... Ma è da una vita a Roma, è una vita comunque, che sta a Roma. Su. Sì, però adesso sono state fatte delle foto per il suo compleanno. Vabbè, uno non può uscire a fare la spesa, Io volevo parlare del processo di Berlusconi. E che vuole dire sul processo? Quale processo poi? Questo qua credo che ci sarà in Cassazione il 30. Sì, Mediaset. Allora si dice, almeno se così è vero, che prove non ce ne siano. Ma non lo so, alcuni dicono di sì, altri no, ovviamente. Dico, se è vero che non ci sono delle prove, perché se lo condannano devono tirare fuori delle prove. Perché altrimenti siamo in Cassazione, non c'è la valutazione sulle prove. Allora? Allora le valutazioni precedenti come sono state fatte se proprio non ce n'erano. Vabbè, Luigi, grazie. Prego. Oh, caro Parenzo, sai che c'è un senatore che è diventato regista e ha realizzato un docufilm su Berlusconi. Ne sei a conoscenza? Molto bene. No, non ti occupi di queste cose ovviamente perché non leggi fondamentalmente, è da tempo che non leggi, però è un problema che bisognerà andare a risolvere, il fatto che tu da parecchio tempo il senatore è il senatore Francesco Giro, tra l'altro è uno di quelli considerati da Bisignani uno dei più berlusconiani di tutti. Senatore sì, Giro, buonasera. Evviva, eccomi. Buonasera. Come va? Come sta? Sto preparando la pasta a mio figlio. Sta preparando la pasta a suo figlio. Senta, sì, 3 anni, molto esigente. Beh, 3 anni, siamo allo spettacolo. Senta, senatore Giro, quanto tempo ha passato con Berlusconi per realizzare questo fiume della libertà, il fiume della libertà? Ma noi abbiamo fatto un montaggio molto faticoso, devo dire, sì, da un archivio imponente di immagini filmate dal 94 ad oggi, tratti dall'archivio Mediaset, archivio Rai e, sì, e dall'archivio personale di Berlusconi, che viene seguito dalla struttura tecnica da in tutti i suoi eventi pubblici. Ma che c'è di nuovo? C'è qualcosa di inedito di nuovo? Beh, ci sono sì diversi film, interviste anche del 94 mai diffuse, quando lui decide di scendere in campo, dove appare un leader molto, insomma, un uomo molto incerto, molto esitante, poco esultante, quindi, infatti gli ho detto, insomma, le prime immagini sono di una persona che non era molto convinta di quello che stava andando a fare. Senatore Giro, però è una roba da Kim Il-sung, una cosa del genere, cioè un documentario di quanto dura? 2 ore? Quanto dura? No, dura 1 ora e mezza. Comunque questa è una battuta che ho già sentito, nel senso che sì, è celebrativa, perché noi avevamo pensato di fare questo lavoro per, diciamo, ricordare i 20 anni di Berlusconi dal 94 al 2014, quindi è celebrativa. Questo non significa che sia una cosa apologetica, ecco, dire, ci sono molti passaggi. Possiamo anche dire che questo, io l'ho detto anche di recente, che questo filmato ci impone un bilancio delle cose fatte e non fatte, e molte non sono state fatte. Però scusi un attimo, senatore Giro, è vero, quello è un bilancio generale. Quando uno realizza un film che si chiama Il fiume della libertà, immagino che Berlusconi abbia voluto insomma dire la sua su, no? Che cosa ha fatto Berlusconi di concreto per questo film? Ha suggerito quello, quell'altro? No, lui lavora così, anche quando facciamo dei prodotti editoriali, dà delle indicazioni di generale generiche, poi vuole un semilavorato quasi finito, dove poi fa dei correttivi. Quindi noi gli abbiamo presentato un lavoro professionale molto accurato, una selezione di immagini, ripeto, molto faticosa, per entrare da quasi un centinaio di ore, 1 ora e mezza di cose, cioè. E poi ci ha dato dei suggerimenti, per esempio l'inserimento, per esempio, molto, io ho trovato molto significativo, del discorso di Onna del 25 aprile 2009, e che voleva metterlo tutto. Sì, insomma, voleva che fosse più sviluppato, perché per lui era matrice culturale, insomma, politica, di una nuova stagione politica che si sta aprendo, quella della Gentese, perché era un messaggio alla riconciliazione anche nazionale. Ah, voleva mettere dentro una buona parte del discorso di Onna, perché secondo lui era l'anticipazione dell'Argentina. Era una forte apertura, ma era, sì, se lo ricordiamo bene. Parenzo, allora? Drammatico, peraltro, della volevo capire dal senatore Francesco Maria. Francesco Maria Giro, il senatore. Volevo capire se quest'opera rientrerà nella storia della cinematografia moderna, se verrà citato dal Mereghetti, se verrà citato dai grandi classici del cinema. Ma chi si è ispirato? Di Mereghetti, poi sono un amante del cinema. Lei quale film è considerato il best film del... Non lo so, lei si sente un po' il Michelangelo, non so, io immagino Blow Up, lei si sente un po' il Michelangelo Antonioni di Berlusconi, le chiedo senza ironia alcuna. Proprio. A chi si è ispirato, senatore regista? A quale grande regista si è ispirato? A Fellini, no, a Antonioni? Io non mi sono ispirato a Docu Film, era a Manzina, a Castellano. Ho curato una selezione, certamente logica, cronologica, ci vuole un po' di capoccia per farlo. Sì. Io ho avuto, diciamo, il privilegio anche l'onore di seguire Berlusconi da 20 anni, e quindi... Però senatore Giro, resta una domanda: perché un senatore della Repubblica, adesso glielo dico in maniera molto franca, cioè si dovrebbe mettere a fare un docufilm Il fiume della libertà su 20 anni di Berlusconi? Io mi sono sempre occupato di comunicazione, sono entrato nello staff di Berlusconi, mi sono occupato nello staff di Querci Buonaiuti, mi occupavo di comunicazione, quindi ho questa predisposizione, ho fatto un mio, insomma, è un lavoro impegnativo, non ha diciamo così quanto tempo ci ha perso di andare al Mereghetti, che poi il Mereghetti è talmente severo e quindi mi boccerebbe subito. Va bene, grazie senatore, a presto, grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie. Va bene, Marco da Verona. Buonasera Cruciani, buonasera. Ascolti, io ho chiamato perché ho un problema. Sì. Nel senso che quando ho chiamato ero in coda, fermo da più di un'ora in macchina, con le bambine che urlavano. ma non è questo il problema in realtà. Il problema è che ho detto a mia moglie: bene, sono le 6:30, ascoltiamo la Zanzara. Sì. E lei mi ha impedito, mi ha detto che non si può perché sono, ha detto, una trasmissione piena di parolacce, quei due sono due cazzari. Sì. Sono parole sue, per carità. Io sì, no, per carità. Vi stimo, cioè, ho detto, sono due senza valori. Sono due senza valori, senza valori. Uno senza valori. Sì, sicuri. E mi ha impedito di ascoltare la Zanzara, pensi, cioè la situazione è drammatica, è un dramma. Ho immediatamente detto: devo chiamare Cruciani, devo chiamare. È un dramma. Se... mi passi sua moglie un attimo. Sì, gliela passo. Grazie. Un secondo, Ha ragione, comunque, se senza valori è vero. No. Buonasera, sono Cruciani, salve. Salve, buonasera. Valori. Perché sarei senza valori io, signora? No, ma io non ho detto che siete senza valori assolutamente. Suo marito ha detto lui così. Sì. No, è perché voi è sempre no per il discorso delle parolacce che magari vabbè, ogni tanto qualche cazzo, diciamo. Ma dai, su. Indicate per le bambine più che altro. Ma le bambine non capiscono, cazzo, sono piccole, no? Quanti anni hanno? Insomma, 8 e 7. Beh, 8 sì, 8 e 7 un po' così. Cominciano a capire. Vabbè, ma non diciamo, a parte la parola cazzo, non esce fuori nulla poi in realtà, no? No, assolutamente. No, è che proprio noi eravamo in viaggio per la nostra vacanza e mio marito era proprio fissatissimo sulla trasmissione, capito? Non ascoltava neanche quello che dicevo, più che altro quello. Capito? No, signora, io voglio dirle questo. Sono Parenzo, intanto, buonasera. Ah, io buonasera. Condivido appieno, salve cara, io condivido appieno con lei che Cruciani è una persona senza valori e senza morale. Questo condivido appieno. Perfetto. Ma non l'ha detto la signora, non l'ha detto. No, non l'ho detto, infatti valori. Io non l'ho detto questa cosa, assolutamente. Sì, senza valori, ve lo dico io, ma lei ha ragione a pensarlo. Siccome lei è una brava persona e non lo dice, sì. Però lo pensa. Lei pensa, ma non lo pensa, ma non pensa, sì. Ma non è vero. Non penso che sia senza valori, è che a volte si va un po' oltre. Ma che no, oltre, si parla un po' di sesso. Ma dai, su, ma ragazzi, non fate i bigotti, dai, signora, ma ogni tanto No, ma assolutamente no, io bigotta assolutamente no. Appunto. Assolutamente no, siamo lontanissimi. Allora, su, qualche volta qualche. Allora, già che ci siamo, signora, se l'ha visto che non è bigotta. Sì. Da quanto tempo è sposata con suo marito? Una decina d'anni. No, anzi, quest'anno facciamo 11 anni di matrimonio a settembre. Beh, non è tanto 11 anni, cioè. No, con 10 di fidanzamento, però. 21 già. E la passione è la stessa sempre. Molti. La passione si sente sempre? Assolutamente. È la stessa. Sì, È la stessa la passione. È la stessa di 20 anni fa. Mazza che fortuna. Ma lei non ha mai avuto la tentazione di tradirlo? No, assolutamente. Per assolutamente. Carità. Ma assolutamente. Non sarebbe se scoprisse che suo marito l'ha tradita? No, impensabile. Ma impensabile. Se lei scoprisse che suo marito è andato con un'altra, che succede? Mi arrabbierei tantissimo. Lo lascerebbe? No. No. Ci sono due bambine di mezzo. Sarebbe una cosa molto complessa e molto. Molto complessa. Molto complessa da valutare, assolutamente. Vabbè, è un casino, sì. Effettivamente sono. Comunque, grazie per aver chiamato e ha ragione. Cruciani è senza valori. Ma non l'ha mai detto la signora, la moglie di Marco da Verona. Non l'ha mai detto. Come si chiama lei, signora? Scusi. Il nome, no, solo il nome. Chiara, tanto anche se non è vero è uguale, lei dica un nome falso lo stesso. No, ma il mio nome è vero. Chiara, la moglie di Marco da Verona. Assolutamente, è verissimo. Che non ha mai tradito il marito, giusto? Ma assolutamente, posso confermare. Non ha mai tradito, il marito non ha mai tradito. Però lei viene corteggiata sul posto di lavoro. Questo dove, com'è? No, dico, lei sul posto di lavoro viene corteggiata perché ha una voce così gentile e piacevole che sicuramente qualche collega ha fatto qualche apprezzamento. Assolutamente sì, anche perché io lavoro in banca, quindi cioè la banca è sempre un ambiente molto. Cioè, ogni tanto qualcuno ci prova. La corteggia. Ovvio. Non è mica scontato. Ovvio, insomma. Non è mica scontato. E cosa succede? Qual è la dinamica che scatta? No, assolutamente non scatta assolutamente niente perché insomma non vale la pena. Non vale la pena. No. Cioè uno le si avvicina e le dice il collega, magari il super le dice ma non è così, ma non è così. Poi ricordiamoci che tra colleghi è assolutamente proibito. Ci si rovina l'ambiente lavorativo. No, è una cosa seria. Vabbè, signora, la ringrazio, le do un abbraccio. Traffico. La Zanzara. Eccoci, Simone da Torino. Buonasera, Simone. Buonasera, Cruciani. Sta bene? Bene, dica. Bene, noi volevamo dirle che siamo in due, siamo Simone e Claudio. 13 settembre 2014 lei e Parenzo è invitata al nostro matrimonio, eh. Beh. Lei, voi ci state coglionando però, eh. Ci state coglionando. No, non siamo coglionati. Già una volta eravamo in diretta da Perugia, una coppia gay ci ha chiamato, in realtà era fuori dall'albergo, lì facevano gli stupidi. Giustamente volevano giocare e divertirsi con noi. Adesso lei ci sta dicendo che insieme al suo compagno vi sposate il 13 settembre e ci invitate al matrimonio. Sì, se allora se in quest'anno, in questo paese, figurati se passa qualcosa. Se non passa qualcosa, noi abbiamo già un prete che ci benedice. Un prete che vi benedice addirittura. Abbiamo un prete che ci benedice. Facciamo una grande festa sotto un grande albero con tutti i nostri amici. Scusa, vi sposate? Noi veniamo se ci invitate al rifresco. Ma vi sposate? Ma certo che vi invitiamo. Simone, vi sposate in che senso? Scusi. Sarebbe bello sposarsi anche dal punto di vista civile, se, tanto da qua al 2000. Cioè, fate una cosa, una festa, beh, diciamo. Facciamo una faccia ufficiare a me, Cruciani. Officiamo, esatto. Noi. Sai che si può fare? Ah, sarebbe bellissimo, Cruciani, se facesse lei insieme a Parenzo, sarebbe bellissimo. Noi ci mettiamo la fascia, sa che si può fare? Si può sposare, perché sei il sindaco del suo comune, devi chiedere subito però. Devi chiedere al sindaco del suo comune e noi, io e Cruciani, veniamo lì, ospiti suoi in albergo 5 stelle, tutto quel che serve. Ma no, perché ospiti suoi? Scusa, l'ho capito. Ospiti totalmente a carico suo, vostro. Veniamo 5 giorni prima a fare anche un sopralluogo, quindi a spese volte 5 giorni che veniamo a fare un sopralluogo del posto, 5 giorni prima, migliori ristoranti, pranzo, cena e colazione, veniamo lì, vi sposiamo e vi portiamo al 6%. Ma non c'era bisogno di andare al 6% di share dove? Su cosa? Al 6 li portiamo. Ma dove? Dove? Ma se andiamo al loro matrimonio fa ascolto in generale. Ma dove? Ascolto, fa ascolto tra chi? Tra che cosa? Per che cosa? No, perché nella vita reale non c'è lo share. No, cioè, non c'è lo share, no. Ah, no. Non sapevo. Non c'è ascolto. Però vi portiamo al 6% sicuro se veniamo. Che c'è, Simone? Anche se dobbiamo pagarvi una apparenza, un albergo a 5 stelle, vi vogliamo lo stesso, non è un problema. No, no, Simone, no, vabbè. Torniamo anche in una grazie, topaia. Grazie. Elisabetta da Roma, buonasera Elisabetta. Buonasera, grazie per la trasmissione, perché è una trasmissione che seguo molto. Sì. Però c'è un problema per me. C'è un problema, ci sono, sì, pochi interventi femminili di persone, di donne normali, cioè. Ma non è vero. Le uniche donne. Prego. Ogni tanto intervengono delle donne, vabbè, adesso qui non stiamo a discutere, ascoltano più donne, più uomini, chi se ne frega, Elisabetta? No, non ascoltano. Anche questa ghettizzazione, no? Perché non intervengono donne, perché non intervengono uomini, ma chi se ne frega? Perché penso che la trasmissione forse per le donne sia un po' troppo aggressiva. Vabbè, può darsi, pazienza, ce ne faremo una ragione, come dire, no? Va bene, tutto qui, era un piccolo suggerimento, se è possibile cambiare. Ma lei per esempio è una donna, lei per esempio è una donna, sta intervenendo, dica la sua. Questo è che pensavo che forse la trasmissione potrebbe essere un pochino più morbida, in modo che morbida. Magari le signore non ha ragione. Hanno timore ad intervenire, perché insomma, intervenire a livello di di aggressività, cioè meno testosterone, più progesterone. Il lavoro radiofonico, però sì, poi per le persone che devono intervenire può essere un problema. Può essere un problema, non me lo pongo, meno però. Meno testosterone. Più progesterone. Ah, Cristian da Londra addirittura. Elisabetta, grazie. Cristian. Eccoci qua. Eccoci qui. Crucillo. Sì. Cruciasconi. Sì. Cruciasconi, Crucillo. Lei è berlusconiano. Sì. È diventato grillino. Sì. Io ho chiamato cazzate. Per farla godere. Ecco la cazzata delle 20:56, proprio in conclusione, in conclusione della stagione. Insulta, lei gode, la voglio fare godere. Mi faccia godere, sì, mi faccia godere. Allora, lo dica in questa grande casa di vetro della Zanzara, quanti soldi ha preso dal Papi negli ultimi anni, Cruciasconi? Lo dica. Ma devo rispondere seriamente oppure a un delirio come si risponde? Quanto ha guadagnato dal gruppo Berlusconi? Ma non lo so, non mi interessa, no, non mi vergogno. Beh, per non niente. Interessa a tutti, lo dico. Ma qual è il suo problema? Qual è il suo problema? La casa di vetro. Ne ho guadagnati tanti, allora? Quanti? Non lo so, tantissimi. Sì. Lei è un berlusconiano che si dovrebbe vergognare. Sì, mi vergogno. Si vergogni. Mi vergogno. Dona, sì. Che cosa sono? Cruciani mignottona dell'Olgettina, pagata dal Papi. La ringrazio e l'abbraccio fortissimo. Lei ha chiamato alle 20.57 da Londra per dire questa minchiata. Lei mi piace per questo, perché lei ha chiamato da Londra per dire questa cazzata. Si rende conto, Christian? Sì, sì, l'ho fatta godere un po'. Sì, ma perché lei è bacato in testa. Ha capito? Perché ascolto la Zanzara. Viva la Zanzara e viva Parenzo, abbasso Cruciani. Ciao! Poi Cruciani, si dice borsa, non borsa, come cazzo parli? Borsa, borsa, borsa, borsa. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao David, salutiamo tutti. Ciao caro. Salutiamo ciao, tutti. Ciao, caro, ciao. Ciao. Vi abbraccio, tutti forte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.